Allora, siamo Cruciani e Parenzo, siamo due. Chi cazzo sei? Siamo due signori che lavorano alla radio. Conosci le radio? Confindustria. Ho capito, tu sei quello che fa le. Capito chi sei. Lei conosce la Confindustria? La zanzara, no? Bene, ottimo. Vedi che ci arriviamo alla fine. Vedi, con calma, con tranquillità. Eccoci qua, senza aggressività. Con calma. Conosci Alfredo Santamato? Mai cacato. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Non ho detto gioia. Ah, bellissimi. Buonasera. Buonasera Giuseppe, come va? Mamma come mia, va? quanto tempo, non ma c'è come male. Va Giuseppe, come non va? C'è ancora vivo hai questo qui? Ancora vivo, sticchio di tesoro, che minchia vuol dire ancora vivo? Miserabile. E iniziamo sì, caro Cruciani. Buonasera, caro Parenzo. Cioè, tu riesci a dormire meglio solamente con le canne? Quando mi rode il culo, sì. Quando mi rode il culo sto una bomba, mi metto lì davanti al computer con una cannetta e basta, si va a dormire. Quando mi rode il culo, sì. Mamma mia, quanto mi piacerebbe incontrarti per vedere quanto sei stronzo di persona. Gioia mia, sento una voce strana, ma chi è? Pronto? Mi sente, pronto? Ecco, mo te sento, pronto? Pronto? Ragazzi, io non ce l'ho con Napoli, per carità, non ce l'ho assolutamente con Napoli. Sapete, il sindaco De Magistris, se ne abbiamo parlato ieri, ha istituito uno sportello contro chi accusa Napoli, chi denigra Napoli, chi diffama Napoli. Una specie di spionaggio vuole la delazione, chiaro, delle persone, chiaro, che devono indicare sì, quelli che diffamano Napoli. Sì. Però, amico mio, ripeto, non ce l'ho con Napoli. Poi tu apri il portale, un portale autorevole che si chiama ANSA.it. Com'è? Il portale dell'ANSA, ottimo. Ottima agenzia, la migliore, la prima l'agenzia italiana. L'agenzia di stampa. Magistralmente diretta da Congiu. Comunque andiamo avanti. Si chiama Contu, veramente. Contu, si chiama in un altro modo. Manco lo sai, magistralmente. Cioè, volevi fare il lecchino e non sei riuscito a farlo fine fondo. Tutto, Contu, allora, magistralmente diretta da Contu. ANSA Campania, prime tre notizie. Vi dico solo questo, poi ricominciamo. Vi dico solo questo. Appalti tangenziale Napoli a ditte clan. Cocaina da Spagna nascosta in barche, tre arresti. Chiodi e colpi contro portavalori. Questi sono i problemi. Pizzo per stare tranquillo. Ma tutto oggi, tre cazzo, tutto oggi. Ti dico, ripeto, pizzo per stare tranquillo, tre arresti. Chiodi e colpi contro portavalori. Chiodi anche colpi. Sì, chiodi e colpi contro portavalori. Ottimo. Questi titoli. Cocaina da Spagna nascosta tutto, in barche. Tutto oggi. Cocaina da Spagna nascosta in barche, tre arresti. Appalti tangenziale Napoli a ditte clan. I primi quattro titoli, portale dell'ANSA, non Libero, La Zanzara, il giornale, che ne so, La Verità o altre cose. L'ANSA. Amici miei, se vi piace così, fate pure. Oh, ma quanto mi fa emozionare a me la signora Le Pen, amico mio. Mi fa emozionare, amico mio. Uno schifo. Quanto godo. Beh, se godi per questo. Anche qui, se amico godi mio, per questo. Anche qui, amico mio. Una non succede. Porcheria. Anche qui. Non succede. Non dirlo. Non succede. Ma se succede. Oh mio Dio. Io guarda, non ho nessuna simpatia per non il Front succede, Nazionale, però, devo dire la verità. Non succede. Non ho mai avuto simpatia per il Front Nazionale. No, voi con Cruciani, voi con Salvini, no, la io Le Pen, no, io avete stretto un accordo, no? Non ho nessuna simpatia per il Front Nazionale. Tu della lista voi con Cruciani, noi non con c'è Cruciani. Nessuna lista voi con Cruciani. Avete fatto l'apparentamento con noi con Salvini. Ma io non ho fatto nessun apparentamento. Gigi, voi con Cruciani apparentato con voi con noi con Salvini. Sì. Voi con Cruciani e voi con Salvini siete apparentati a vostra pizza punta dalla vostra Le Pen, parte. Dalla vostra parte, esatto. Dai, allora, schifo, l'ultima quello... provocazione della Le Pen. Sulla bandiera, dici. Esatto, no una alla porcheria. Bandiera dell'Unione Europea in studio. Che roba. La leader del Front National, Marine Le Pen, invitata dall'emittente francese sì. TF1, che è praticamente la prima televisione sì, francese. Come fosse Rai sì, uno, esatto. Sì. No, è privata. Ha chiesto di essere intervistata con alle spalle soltanto sì. il tricolore francese. Propaganda stupida. E senza la bandiera pure dell'Unione Europea. Fino a quando la Francia amico dell'Unione Europea mio. Si tenga. Ma amico mio, cosa? Ma perché ti ma uno vorrà per questo? Essere intervistata perché senza quello straccio di ma bandiera no, europea quella dietro? Bandiera è quello il simbolo straccio della azzurro. Francia oggi. Lo straccio azzurro. Lo straccio azzurro. È uno straccio. Io lo uso per pulirmi il culo. No. Capito? Io lo uso per pulirmi il culo. Chiaro? Potrono. No, che schifo. Potrono. Lo uso per pulirmi. No, di che? Fa schifo. Non mi piace quella bandiera. Ma quella bandiera non mi piace. Esteticamente è orribile. Ma sei un provocatore miserabile. Ma è oscena. Ma meravigliosa. Gli Stati Uniti d'Europa. Meraviglioso. Non esistono gli Stati Uniti d'Europa. Li faremo. È una finzione. Li costruiremo contro lo Stato-Nazione. Lo Stato-Nazione ha prodotto soltanto morti. Secondo via te le bandiere degli mi sento veramente male, mi manca l'ossigeno. Via le su queste cose mi accaloro. Via le bandiere degli stati, via. Come via. Le bandiere via le bandiere lo degli stato stati. Nazione ha creato morti lo stato nazione, sangue. Gli Stati Uniti d'Europa, questo grande mercato, diritti comuni. Che differenza c'è oggi tra un francese e un italiano? Ma che tra sei un scemo? Francese ma e sei un greco. Sei. Hanno le stesse paure, le stesse pulsioni, le stessi amori. Ma non è vero. Hanno gli stessi diritti. Questo è il grande spazio. Se dici che squirtano allo stesso modo le donne, dici. Quello sì, quello è vero. Ah, dottore, è andato con Tronchetti Blovella a fare aperitivo. No balla, squirti. Comunque, ragazzi, io ho goduto davanti a questa decisione della Le Pen. Ho goduto. Io con comunque quella bandiera uno che non mi piace mi pulisco il culo, chiaro? Io vergogna. Se la vedo mi pulisco il culo, quella che bandiera vergogna. Non la sopporto. Quella bandiera non la sopporto, a te, chiaro? A te ti dovrebbero non arrestare perché per dipende la bandiera, ma ti dipendo dovrebbero sanzionare. Esiste, ti dovrebbero togliere la trasmissione, ti dovrebbero ma togliere. Sì, hai detto una cosa gravissima. Ma che gravissima. Le bandiere delle nazioni hanno creato morti il nazionalismo. Hai già detto, io con quella bandiera là esteticamente non la sopporto, non mi riconosco, ma dunque se capita, se qualcuno me la dà insieme. Mi pulisco, chiaro, mi pulisco. Se ma qualcuno tu, me la dà mi pulisco. Che tu non ti pulisci mai e guarda caso ti devi proprio pulire con quella questo anche vero. Questo no, è da questo capire è però, se capita ho detto, se capita. Comunque ragazzi, la signora peggio di Casa Pound sei no ormai, ma che peggio di Casa Pound peggio, ma che peggio. C'è non me ne frega niente a me di sei Casa proprio Pound. Pronto per le politiche che qua, hai già chiuso le liste quali liste perché no, chiedo cosa? Con Salvini ma avete, quali elezioni di già, cosa sei già oltre per le politiche sei pronto già hai fatto la raccolta di firme per la lista ma quale lista no non lo so chiedo allora, ormai a me l'Europa la bandiera dell'Europa mi fa orrore chiaro posso tu dirlo orrore. Che mi fa orrore tu fai orrore allora, tu fai orrore la contessa De Blanc contro Cecchi Paone ragazzi questo che il top del top contessa De Blanc. La contessa De Blanc contro Cecchi Paone ma dov'è dalla vostra parte si è autoproclamata la contessa del popolo la signora ma De Blanc ti ripeto la prossima volta che la chiamiamo la devi mandare a fare in culo tu la contessa del popolo la devi mandare a fare in... se hai coraggio la devi mandare a fare in culo contessa. Chiaro e buonasera Patrizia De Blanc che buonasera direttore che la pistola ce l'ha sempre come no, anzi, fra un po' ne piglio pure un'altra. Dopo ci racconta, vabbè. Ci racconta insomma. Sì, sì, c'è vabbè. Chi Paone stai zitto. Rimane dai, buona te con queste pistole che metti paura a tutti. Dopo parliamo, ma stai zitto, parliamo stai. Delle voglio dire, quello che è successo l'altra sera a casa mia... Che questa signora che c'ha il box vicino al mio stava parcheggiando la macchina, aveva appena spento il motore, si vede aprire con violenza la portiera, dare un pugno in faccia che gli ha sfrantumato il naso, prendere, rubare la borsa e scappare via. Che fai poveraccia? Adesso lei sta all'ospedale alle 8:30 di sera. Ma di... succedono tutto a casa sua. Tutto a casa senti, sua succede. Senti Cecchi Paone, a te ti devo dire una cosa, perché mi hai veramente rotto. Sai cosa ti mando? Ti mando ufficialmente a fanculo. No. Dalla vostra la contessa, parte. La contessa. Dalla vostra parte. Linguaggio nobiliare. Ogni volta si cade, succede a casa mia, succede a casa mia come a casa degli altri. Se tu hai sentito Patrizia. Tutte queste signore sugli autobus, eccetera, questo è successo beh, a casa sono mia. Sono molto più educate di te che ti definisci contessa. Dai. Io sono la contessa del popolo. Mi scuso io per gli insulti. Peccato che il popolo vero ti insulta, tu insulti invece. Io però, adesso, io, caro, io la cosa che non capisco è il signor Belpietro. Signor Belpietro, allora, amico mio, non devi scusarti. Quella roba lì che fai ed è una genialata, è costruita apposta per mandarsi a fare in culo. È inutile che tu dici mi scuso, ma che te scusi, ma è inutile, come qualcuno dice alla Zanzara, hanno mandato a fare in culo uno, ah io mi scuso, ma non mi sì, ma io cosa? Mi scuso sempre, effettivamente sbaglio. Dai. Quanta gente vuoi far morire? Maleducata. Quanti? Come sei, non ti puoi permettere di esprimere opinioni. Sì, invece sei violenta, devi. Qui ognuno esprime le opinioni, basta che non insulti. Benissimo, perché io non sono né una demente, io sono una persona, sono una cittadina che è la voce di tutto il popolo. Sei violenta dentro perché insulti, sei maleducata. Ti rendi conto come siamo ridotti, che mia figlia che torna l'altra sera dice mamma ci sono dei rumori dalla cosa eccetera, ho paura di tornare, ho preso la pistola e sono scesa in garage con la pistola. Tu cerchi siamo scuse ridotti a questo, per usare la pistola perché sei una Calamity Jane, altro tu che una contessa, ma per favore freghi. Ma tutta Italia freghi, si deve preoccupare Alessandro. Di te e tua figlia, ma basta. Cecchi Paone combatte, però non risponde a tono, signor Cecchi Paone. Lotta Cecchi con la contessina. È praticamente il Parenzo di Dalla Vostra Parte. Cecchi così Paone. Bel paragone, il grazie. Il Parenzo di Dalla Vostra Parte. Tu sei il bel Pietro della radio. No, io no, allora. No. Certo, l'ottimo bel Pietro. Persona. Buonasera e benvenuti Dalla Vostra Parte. Ragazzi, la cosa che veramente non capisco è questa polemica sul report. La voglio dire qui in maniera definitiva. Meno male. Allora, è una polemica ridicola. Ridicola. Ma fatevi un po' i cazzi vostri. Non si capisce perché nel servizio pubblico della RAI, se proprio vogliamo chiamarlo servizio pubblico, ci sarebbe da discutere a lungo su cos'è servizio pubblico o no, non si possa fare un'inchiesta sugli effetti collaterali di un vaccino. Beh sì, dipende un po' come viene presentata. Con il conduttore però, che ha fatto semplicemente un'inchiesta. Uno può discutere dell'inchiesta, sì, certo, ma non è che getta nel panico le persone, come dice qua. Getta può nel panico. Può creare dei dubbi, però io non ma l'ho vista, quindi non posso. Stasera dubbi. La vedrò. È sì, legittimo avere dei dubbi. No, quello che non è legittimo è la politica che a seconda del momento normale, e della c'è? Convenienza, no, questo è ipocrita invece. Attacca report a corrente alternata a seconda della convenienza. Cioè, i 5 Stelle adesso, siccome i 5 Stelle difendono report, il PD, diciamo, soprattutto esatto, i renziani attaccano esatto report. Questo è la cosa più ipocrita. Vabbè, però, di ragazzi, tutta posso la dire situazione. Una cosa, la gente di queste cose non gliene frega un cazzo. Beh, dovrebbe invece interessarsi su chi attacca, chi è perché, perché sì, dietro c'è sempre qualcosa. Va bene, per carità. No, va bene, va male, va. Cruciani, manda il traffico che devo fare un pompino. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta La Zanzara. Allora ragazzi, mi hanno scritto in molti perché ieri non avete parlato di questa cosa incredibile del treno Ventimiglia Torino, praticamente preso in ostaggio da una settantina di ragazzini, la maggior parte, anzi quasi tutti, direi tutti, extracomunitari, che hanno fatto quello che hanno voluto su quel treno, atti di vandalismo, pare, sì, tentativi di molestie. Di che nazionalità erano questi ragazzi? Extracomunitari, non si sa bene perché se ne sono andati a un certo punto, si sono dileguati, hanno tutti fermato solo due, erano, alcuni eh? Minorenni. Sì, certo, sono saliti sul sì, treno sì. Ventimiglia Torino, lo hanno praticamente preso in ostaggio. Cioè io direi vandali comuni, non è che sono perché extracomunitari, una questo banda direi di extracomunitari, si io potrà dire una banda di extracomunitari. Io li chiamerei una banda di comuni vandali, non mi interessa. Ma perché non bisogna perché specificare perché che sono extracomunitari? Perché è indifferente, perché chi commette un reato non riguarda il colore della pelle che ha chi commette un reato, no? Cioè le bande di italiani, tu non le conosci, di giovani italiani, le bande che si sono scontrate certo a Roma, a Piazza allora? Cavour, allora? Le bande che si scontrano a Milano in periferia come ai Navigli, sono italiani o sono extracomunitari? Chiamiamo abbiamo le piccole bande di piccoli criminali, che è meglio anziché di la banda di extracomunitari. Una settantina di teppisti. Ma che cosa sei? La verità, la verità, la verità. La verità è che dici una minchiata. La verità è che dovresti dire banda di criminali, non dire banda di extracomunitari. Questa è comunque, la verità. Per adesso ne sono stati identificati pare 4-5 tra cui, bene, benissimo, tra cui un italiano maggiorenne, bisogna dire, e 3 marocchini. Cucù. Beh, che c'entra, scusa, ho capito cosa c'entra. Comunque, ragazzi, ma che ti dice il cervello? Era... il capo della banda è un maggiorenne italiano. Che c'entra la nazionalità di questi? Che ne sai che è il capo? Chi era su quel treno? No, ho detto che era maggiorenne. Chi era su quel treno ci chiami per raccontarci la verità. Mi segnalano giustamente, avvocati autorevoli mi segnalano, di al dottor Cruciani dei treni frequentati dai tifosi di calcio in Italia. Assolutamente. Ricorda, una vergogna, dottor Cruciani, vergogna. Dei treni frequentati dai italiani. Ma chi dice il contrario? Chi dai dice... italiani, dai italiani. Vabbè. Atalanta, Lazio, vabbè, Roma, un'altra vergogna, Juve. Un'altra vergogna, lasciamelo dire, è quello che abbiamo saputo nei giorni scorsi, cioè il ricorso di 20 ex deputati. Un ricorso coordinato da un mio amico, purtroppo, l'avvocato Massimo Panis, ex parlamentare, il quale ha presentato un ricorso. Siccome il Parlamento ha deciso di tagliare di poco, del 10%, del 20%, i vitalizi, che già sono uno scandalo dei parlamentari, 20 in 20 non ci vogliono stare, soprattutto quelli che prendono 6, 7 mila, 8 mila euro al mese, e hanno presentato un ricorso contro questa decisione, cioè non vogliono nemmeno una piccola decurtazione. Non vogliono una piccola decurtazione, capito? Questa è una vergogna assoluta. Già i vitalizi dei parlamentari, a mio parere, vanno cancellati. Cancellati. In più, questi qua gli decurtano il vitalizio del 10, 15, 20% e fanno ricorso. Fanno ricorso cercando, tipo Capanna, capito? Di sfuggire, certo, di sfuggire alla Lego, di sfuggire. Piccolo ricorso. A proposito, davanti alla sede di Confindustria Mestre, io non ho mai messo piede lì, è apparsa oggi una scritta in rosso: Cruciani merda. Cruciani merda. Sede di Confindustria. Beh, sede stupendo, di Confindustria. Ma come stupendo, un gesto. Come stupendo. Saranno stati gli animalisti. È un gesto quasi d'annunziano, dovresti essere affabellissimo, finalmente. Chissà Capanna cosa direbbe di questa roba qua. Chissà Capanna cosa direbbe. Guarda, amico mio, chiamato in causa, a domanda ovviamente rispondo. Negli anni 70 noi andavamo con un gruppo di amici, compagni e compagni, con dell'indelebile pittura, a scrivere sui muri, che so io, maledetti gli sbirri, oppure assalto al potere, vogliamo tutto, slogan meraviglioso peraltro, il vogliamo tutto. Beh, di ma che validea. C'entra questo, scusi, allora, Capanna, con imbrattare? Mi dispiace che imbrattare un cazzo, abbiamo semplicemente manifestato la nostra idea, la nostra opinione. Beh, ho capito, qualcuno dovrà pagare, poi pulire i vetri. Pagheranno i padroni, la Confindustria pagherà per risbiancare tutto, mi pare evidente. Hanno un giornale che si chiama in modo totalmente ridicolo Il Sole 24 Ore. Avranno tempo e modo in 24 ore di rimbrattare tutto. Ma noi saremo lì a rimbrattare di nuovo. Anzi, mi dispiace che quelle compagne e quei compagni non abbiano preso d'assalto direttamente quella sede, che non serve notoriamente a un cazzo, diciamocelo. Tutte queste territoriali sparse in giro. A salire, se fossimo arrivati là almeno in 25, avremmo intanto guardato l'obiettivo un poco da lontano. Lo avremmo scrutato. Mi risulta che lì a Mestre, peraltro, c'è soltanto un uomo di guardia facilmente circondabile e si sarebbe arreso subito. Guadagnerà 1100 euro, quindi mai si sarebbe permesso di bloccare, sicuramente di bloccare gli operai, i compagni e le compagne. Bloccare l'edificio, impossessarsene per dei giorni, ma mettere degli striscioni che cadono giù dal secondo piano sino a terra, garriscano gli striscioni e le bandiere di Democrazia Proletaria. C'è più DP, che ricorda anche molto David Parenzo, che è un'altra cosa, ma DP, Democrazia Proletaria, e anche un'altra cosa sessuale, garriscono, quale non mi double ricordo, double penetration, double, ma è una cosa che io non conosco. Garriscano gli striscioni dall'alto. Vabbè, bellissimo. La polizia, i fumogeni, i lacrimogeni, il piazzale di Venezia assediato dalla polizia, tutto bloccato. Allora, Dario da Venezia, vai. Dario da Venezia, Dario, dimmi. Dario, fatto di ragazzi, il treno era un misto di nordafricani, tipo tunisini, marocchini e italiani, eh? Era una banda mista. Ho capito, una banda mista. Una banda di integrati. Può darsi. Allora, Venezia, dimmi, Dario. Sì, volevo parlare del fatto che mi ha fatto incazzare come una bestia dei Magistris con questo sportello, una scontata. Volevo pensare alla Lega, che rompe tanto i coglioni per l'indipendenza del Veneto da tempo. Perché non propone l'indipendenza della Campania? Cioè, tu dici che la Campania è un peso per l'Italia, dici? Certo, dico, voglio fare questo paragone. Se in una serata tramite te uno stronzo che rompe i coglioni. Mica io che sono quello buono mi dovrò isolare. Isoleremo lo stronzo in modo che non rompa più i coglioni. Cioè, dunque, tu sei convinto che la Campania va mandata via dall'Italia? Sì, assolutamente. Perché? In modo democratico. Perché? Perché il problema dell'Italia ha un deficit assolutamente negativo e in questo modo, essendo indipendente, il deficit negativo sarebbe solo lei. Cioè, dici fuori dai coglioni Napoli, la Campania, eccetera, eccetera. Fuori dai coglioni Napoli, la Campania, che vadano alla Ciro da Roma, che vadano alla merda da soli. Ciro da Roma, vai, Ciro. Grazie, buonasera. Dimmi. Al di là di questo imbecille che ha chiamato da Venezia, sì, io sono d'accordo con te, Giuseppe, perdonami se ti do del tu, sulla vicenda della bandiera europea che è un vero cesso. Ma ecco, sì, un altro. Sono in totale disaccordo. Sì? Ma lei è un cesso, la bandiera. Scusami, non solo perché sono napoletano, io vivo a Roma. Tu hai detto a Napoli stamattina, Lanza... Io ho fatto un esempio, ho fatto un esempio. Sì, non lo so, si parla effettivamente... No, ma che c'entra la provocazione? Non dire cazzate. Io, ma no, che Lanza provocano? Provocano Lanza. Io ho detto tre notizie. Ragione. Appalti, ascoltami, tangenziale, Napoli a Ditte Clan, cocaina. Ma che cazzo, ascoltami, c'ha Parenzo? Sta tirando la cocaina? Che fa a proposito di questo? Ecco, diffamazione. Che ne so, stai lì col naso così a tirare la cocaina. Il naso, la gola. Ma chi se ne frega? Senti, catarro, vuoi sapere in diretta, cioè, veramente? Scatarra, no, quello vero. Non è educato. Cocaina da Spagna nascosta in barche, 3 arresti. Chiodi e colpi contro portavalori. E poi ancora, pizzo per stare tranquillo, 3 arresti. È l'esempio di una giornata tipo raccontata dalla principale agenzia italiana. Questo dico, punto. Posso? Dimmi. Dunque, dopo aver parlato di Napoli, hai parlato di due casi. Roma, avete già il problema della De Blanc, che è una cretina. L'altro ieri a Roma hanno arrestato 15 persone per spaccio. A Milano ne hanno arrestate altre 20. 3 giorni fa a Milano, in piazza San Babbio, c'è stata una rissa. Stai dicendo i problemi che a Napoli sono uguali. Sono uguali a quelli degli altri. Sono uguali. Avete gli stessi problemi. Di altri. E allora basta. Perdonami, sono come fai a parlare, parli solo tu. Basta buffonate. Non avete gli stessi problemi, ne avete molti di più. Dai. Dove sono le bande criminali che occupano intere porzioni di territorio? Dove sono? Dove sono bande criminali? Gomorra! Dove l'hanno girata Gomorra? No, te devo dare ragione. Se mi fai così il qualunquista, devo parlare. Ma che qualunquista, dai. Sì, vabbè, ciao, ti abbandono, ciao. Parenzo. Sono Parenzo. Vincitore vecchio. Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. Parenzo. È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. Sono Parenzo. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presento la zanzara. Facciamo un delirio! No! Cioè, allora ti spiego. Parenzo, secondo me non scopi. È per quello che ti vergogni quando si parla di squirting. Pagato da Sad. Come cazzo fa Razzi a definire tranquillo e uomo di pace un pazzo dittatore che ha fatto giustiziare un suo parente sparandogli con una contraerea, facendola a pezzi, e un altro l'ha fatto divorare da 120 cani mettendolo nudo in un'arena insieme ai cani, un altro l'ha fatto bruciare con lanciafiamme? Cazzo, se questo è un uomo di pace e tranquillo, ma Razzi sa quello che dice o parla tanto per parlare? A Allora, caro Davide, piccolo aggiornamento sul nazi veganesimo, ogni tanto ci vuole, sì, sui nazi vegani. Allora, leggo, mi hanno mandato questo screenshot, questo colloquio, per quelli che non sapessero la parola screenshot, perché solo i giovani forse lo sanno. No, ci sono anche persone non giovani che sono all'ascolto di questa radio, giustamente, e devono essere, come dire, rese edotte, informate anche di cose che non conoscono, perché magari non frequentano internet, non frequentano il web, se ne fottono di Facebook, di Twitter, eccetera. Conversazione tra due persone su Facebook. Una tale Maria Pia scrive: io quando ero piccola, mia nonna paterna, che stava per far fuori una gallinella, a momenti le spezzavo le gambe. Presi un bastone dalla legnaia e giù botte. Avevo una forza triplicata alle braccia e avevo solo 7 anni. Naturalmente salvai la gallina e lei mi disse che ero pazza. Chiusi tutti i rapporti con lei a vita. Potrebbe anche non essere vero, ma guardate che nella mentalità nazi vegana ci può stare tranquillamente. Risponde un tizio che si chiama Saverio: facesti benissimo e fu anche poco. Speriamo che tutta sta gente ora sia in una dimensione infernale senza poter far male a nessuno. Mamma. Risponde ancora questa Maria Pia: non andai nemmeno al suo funerale, spero bruci tra le fiamme dei suoi fratelli demoni. Conversazione verosimile tra nazi vegani. Ecco, verosimile direi. Ma che c'hai là davanti? Vedo che stai leggendo il sito di un giornale. Che no, c'hai? Sì, stavo compulsando. Io non ce l'ho con gli amici del Quotidiano Libero, figuriamoci, sennò sembra di Gemarenzo, se la vede con Libero. Le grandi inchieste di Libero. Foto del signor Linus, dell'ottimo Linus. Sì, ho visto il ieri, titolo: sì. Linus, virgola, la vecchia foto scatena il sospetto. Due punti. Sì. Ma è super dotato? Le grandi inchieste. Poi vai a leggere. No, dici, beh, caspita, che vai roba ad aprire questa? Col click. Sì, che... col click, guarda. Sempre il guarda maledetto. Cioè, uno clicca, guarda. Sì. Non trova ovviamente niente, solo una vecchia foto. Dal passato spunta una foto, anzi, la fa spuntare il diretto interessato, Linus. E lo fa su Instagram. In questo scatto il conduttore radiofonico aveva 18 anni. Era dei ruggenti anni 70. E Linus scrive: ma che c'è in questa foto? Assolutamente niente. C'è lui attillati, con i jeans attillati, esattamente nulla. Nulla di tutto questo. Nulla. Cioè, e poi non lo so, dicono che le persone, diciamo, non particolarmente alte scatena siano... il sospetto. Ma il sospetto di chi? E poi che cosa dite? Cosa dite? Sì, però lui ci ha giocato, ho letto da qualche parte, ha detto grandi inchieste di Libero, le grandi. Uno apre la cosa e vede uno con i pantaloni attillati. A me manda i matti quando loro mettono guarda. Orde di immigrati invadono l'Italia. Guarda! Tum. Si vede quattro persone, quattro mica. Cioè, ma ti rendi conto? Guarda. Ma dove era Orde di Immigrati? Era rivolto a dove? No, guarda, qui l'avevo aperto, adesso mi si è cancellato. Orde di Immigrati? Ah, sul treno forse. Il treno di Torino. Il treno, ma sì, Orde. La parola Orde, capito? Orde. Orde. Ma ce n'è per tutti. Ecco, anche quest'altra. Foto della signora Ravetto, della deputata Ravetto. Quella sporca verità sugli immigrati clandestini. Ravetto, virgola, il documento. Dovete sapere che... Dovete sapere cosa? Guarda la gallery. Che cazzo vedi? Niente. Quella sporca verità. Allora ragazzi, lo squirt. Nel frattempo mi scrivono i signori di Casa Pound. I signori di Casa Pound. Dimmi, che vogliono. Ricorda al signor Cruciani che il camerata di Stefano di Casa Pound ha fieramente strappato dal palazzo dell'Unione Europea quello straccio blu con le stelline. Vabbè, lui, pagando io non con la galera. Io non strappo altro nulla. Altro che chiacchiere, praticamente teatro del chiacchierone. Io non strappo nulla. Il io fascistone non strappo. Di ecco Casa qua la foto Pound. Di Linus, ce l'ha qua. È la foto di Linus. Ecco. Guarda, è qui. Sì, guarda. Ma c'è. Sì, ma semplicemente hanno tutti il pacco in realtà. Perché sono tutti con questi qua della foto dove c'è Linus. Me l'hanno mandata adesso, non l'avevo vista. Cioè, ho visto la notizia ieri e mi ero dimenticato, qui 2 ore e mezza di trasmissione, non mi ricordo più cazzo, ormai sono, ho il cervello totalmente in pappa. Effettivamente questa foto, ci sono 5 persone, qui adesso non so bene chi sia Linus, hanno tutti i jeans attillati, tranne uno che ha dei pantaloni normali, gli altri hanno tutti dei jeans attillati e tutti sembrano avere un cazzo enorme, ma è normale che sia così, o comunque un cazzo da super dotati. Vabbè, un pisello. Un tema sì, ma è così, ma non è... È vero che dicono che quelli non tanto alti magari poi sono super dotati, no? I bassetti. Questo. Alcuni dicono... Non lo so, ma comunque non me ne frega niente. Dottore è uscito. Allora Maurizio da Prato, vai Maurizio. Maurizio da Prato. Sì, buonasera. No, dimmi. Io volevo parlare con Parenzo un secondino. Lui si ostina a dire che queste non sono bande. Maurizio da Prato, sì. Maurizio da Prato. Queste non sono bande. Sì. Sì. Queste sono bande di extracomunitari che danno un sacco di problemi. C'era guarda anche un italiano, c'era anche un italiano, c'era anche un italiano. I problemi nascano da quando c'è tutto questo afflusso di persone. Io glielo dico da autista di autobus. Noi siamo continuamente aggrediti da queste persone che danno un sacco di problemi perché loro non fanno i biglietti. Ah, tu fai l'autista, come, tu fai come l'autista i tifosi, di autobus, come gli ultras, sì, uguale. Sì, sì, come no, gli ultras, ma caro, che c'entra? Caro, ma è caro diverso, Maurizio, ma è diverso. Come gli ultras, Parenzo, come gli ultras alla... che devastano i treni quando vanno in trasferta, Parenzo, uguale. Scusa, uguale agli ultras che devastano i treni, uguale. La criminalità è criminalità, punto. Voi basta. Avete parlato del chiusa treno, la discussione. Io posso riallacciarmi anche a alla nave della Tirrenia, se non sbaglio, sì, è stata presa in ostaggio. Ma sì, guardato sì, tutti essere comunitari. Scusami, scusami, Maurizio, voglio capire una cosa: nel tuo autobus c'è gente che non fa il biglietto, che rompe i coglioni agli altri passeggeri? Anche italiani. Pieno, c'è pieno senza anche italiani, biglietto. Anche persone, italiani. Extracomunitari o italiani? Extracomunitari, magrebini soprattutto, marocchini. È una realtà, cioè... Parenzo, arrenditi. No, ma va è bene, realtà. Ma non è che mi devo difendere. Se uno ma non paga il biglietto, sbaglia. Italiano, ma gli extracomunitari sono quelli che non pagano, ragazzi, via. Pure, diciamo tra i portoghesi pure tra gli italiani abbondano, ecco, meno male, i portoghesi, meno male eh, che ogni tanto, no, tra i ogni tanto esci, bisognerebbe farti un esorcismo, esci dalla vostra parte, altro che Asmodeo, dalla vostra parte vai via, come fece quell'esorcista lì, ti esci da noi con Salvini, esci, esci. Però, Cruciani, meno male che hai ricordato una cosa, te lo sta dicendo vera, un proletario, cosa te lo sta dicendo un operaio, un autista, un guidatore, chiamalo come vuoi, non è un Salvini, non è una, non è sono d'accordo con lui, ma uno che dicendo, non paga il biglietto, un lavoratore, non paga il biglietto, un multato, allora punto, Maurizio fine, è un lavoratore normale, magari sì, era pure certo, comunista quando era più non giovane, non lo so, ma non mi interessa, forse cos'era, votava comunista a Prato, certo, certo, Mauri, adesso certo, che voti Maurizio? PD. Ancora adesso voti PD? Vabbè, mi sono sbagliato, pensavo che fosse no, con Salvini, no, che culo, ma no, a me non me ne frega, figo, a me che cazzo ma me ne frega, ragione, poi c'ha ragione. Sto dicendo semplicemente, Maurizio, che tu sei un lavoratore normale, certo, che nota alcune cose, non hai pregiudizi nei confronti degli immigrati. Maurizio ci sta raccontando che sul suo autobus la maggior parte delle persone che non pagano, che fanno casino, che molestano, che rompono il cazzo, cosa sono, Maurizio? Extracomunitari. Oh, ma vabbè, è un dato di fatto, vanno, bisognerà prendere sanzionati, atto, vanno o no? Sanzionati, certamente. Sì, ma non dire sanzionati, che sono come tifosi, perché quelli è un, no, ho detto un caso singolo durante no, la partita. Singolo, dai. I tifosi che devastano i treni per... Ma d'accordo, ma per carità, ma non c'è, oh, non c'è dubbio, però è durante la partita che avviene una cosa del genere, non ah, è ogni giorno, è Maurizio, tutto. Ogni, ma volta, ogni domenica sono le trasferte, qualche danno ai mezzi pubblici viene arrecato da questi banditi. Che paragoni fai, Parenzo? È una cazzata, dai, dai su, fai, da questi banditi. Non fare paragoni. Comunque, sciocchi, caro Maurizio da Prato, via Maurizio da Prato. Lascia che ti dica, chi non paga il biglietto va sanzionato, sia esso bianco, giallo, noi con Salvini o dalla vostra parte, chiunque non paga il biglietto va sanzionato. Luigi da Bari, vai Luigi. Buonasera. Luigi, dimmi, dimmi Luigi, dimmi. Sì. Ciao, volevo fare mi hanno mandato questa scritta qua, Cruciani merda, ancora mi mandano. No, ma però spero che sia stata cancellata. Sembra, no, non mi sembra così grave. No, però se, non è grave, però certo è che non è grave. È bella perché è più bello, no, quello. Però, scusami, mi dispiace perché hanno imbrattato la sede della Confindustria, quindi questo è un atto gravissimo di per sé. Ma di per sé la scritta su un muro è mostra no, molto più coraggio. Tu lo sai di quando un le tweet. Sai quando le facevano, no, queste scritte? Tu lo negli sai anni quando negli anni 70 certamente. No, per dire, no, adesso togliti dall'abito di capanna. Cioè, queste scritte qua, Cruciani merda, Cruciani sì, ma non merda, hanno messo Boia ad esempio, no? Sì, però il prossimo passo è Boia, l'hanno già scritto Boia da qualche parte. Sì, può essere, formidabili benissimo, quegli anni comunque. Meraviglioso, meraviglioso, scappavi come, saresti scappato come un coniglio tu. Luigi, vai, che mi dicevi? Ciao, buonasera, aspettavo che finivate di parlare. Dai, dai, sì, vai. Giusto una domanda a Parenzo, perché difendi, scusami se ti do del tu, sempre sì, i rom oppure altra gente che non si comporta bene? No, io non dico, chi non si comporta bene non si comporta bene, punto, non che sia esso rom, italiano, eccetera. Io dico che c'è stato il problema di quella materia a Lecce, che ho ascoltato sì, le puntate sì, comunque tu diciamo che davi manforte anche ai rom. No, no, cioè, ho svolto sì, un ruolo di mediazione, ma no, mediazione, ho svolto un ruolo sì, che alla fine si è concluso benissimo perché no, mi pare che ma magnificamente sì, perché, ma perché se ne sono rotti, andati, abbiamo rotti i coglioni noi, mica abbiamo, perché, sì, perché però non abbiamo ceduto al ricatto. Se ne sono andati, e nemmeno la trattativa. Stavamo dai, trattando sul fatto che noi c'erano dei bambini. Io penso che devi avere un po' più di rabbia nei loro confronti, come ce l'ha Cruciani. Io ho rabbia nei confronti del razzismo e dell'intolleranza. Luigi, non è che puoi dire devi avere rabbia, ma che discorso è? Devi avere rabbia. Che cazzo vuol dire devi avere rabbia? Ma ti viene rabbia, no? Questi fanno, entrano, modificano, fanno quello che vogliono, vogliono dare anche il lavoro, li devono perdonare, insomma. Vabbè, ciao Luigi, ciao. Ciao, ciao, grazie. Signora del Santo, sa che cos'è lo squirting? Sì, è quel ballo dove muovi il sedere. Cos'è lo squirt? Quel ballo dove muovi il sedere. Cruciale, dimmi cos'è sprint. Quel ballo dove muovi il sedere. Perché? Ho sbagliato? Quello che ti muovi ti convulsamente. Convulsamente. Quel ballo dove muovi il sedere. Sì. E adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Luciani, tu ti fai le pippe la domenica, altro che lavori, non dire cazzate. Testa di cazzo, perché non trasmetti anche tu sta cazzo di trasmissione il sabato e la domenica, allora? Testa di minchia. Il sabato e la domenica tu dici che deve essere pagato come un giorno normale, ma te ando cazzo stai il sabato e la domenica? E il lunedì di Pasquetta ando cazzo stavi? Te stavi a fatte le cazzi tu a casa, capito? Allora comincia a lavorare pure il sabato e la domenica, facci ride pure nel weekend, Crucià, facci ride! Crociani, sei un pezzo di merda. Oh, ma in Olanda che tutti tirano su col naso così come David Parenzo? Allora, caro David, dove andiamo? Dove andiamo? Eccoci. Dove andiamo? Stefano da Milano era dopo. Angelo, provincia di Milano, vai Angelo. Buonasera. Comunque ragazzi, solo una cosa, lo squirt, l'analcolico afrodisiaco biondo che fa impazzire il mondo. Come si chiama questo? Squirt. L'analcolico afrodisiaco biondo che fa impazzire il mondo. Bellissima sta cosa. Stefano. Cruciani. Dimmi Angelo, anzi Angelo. Dimmi. Cruciani, ma dimmi una cosa, io prima mi devi dire solo, ma 2-3 sabato fa hai preso il treno Italo che andavi a Roma? Ma che ne so, può darsi. Sì, no, può non sì. Dire che ne so, non dire che ne so. Treno Italo per Roma, sai sì, quanto tempo fa? Alle 7:45, diciamo 3 sabati fa, una cosa del genere. Sì, andavo, non mi ricordo dove. Può essere, sì, può essere, Angelo. Non lo so, mi sono dimenticato. Ottimo, allora, Italo, ma che vuoi? Non ho capito. No, volevo dirti, perché c'eri anche tu. Io ti avevo visto perché... da vicino, però. Sai, chi certe se volte ne frega. Vedere le persone vicine è meglio. Poi quando riguarda la situazione di Napoli, si vede che sono campano, non napoletano. Sì, si sente abbastanza, sì. Perché la screditiamo così tanto? Ormai non ne parliamo mai di latifuni. Ma chi screditi? Ma come la screditi? Tu adesso l'altro che parlava gli hai chiuso il telefono. Hai no, detto, no, ho chiuso il telefono. Chiudo, a parte che era... perché noi l'hai fatto parte parlare. Che avevamo la pubblicità. Prima avevamo Vabbè, la pubblicità. No, ma... parlare, gli ha chiuso il telefono perché mi vuole parlare perché Crucià amico mio, qui noi nonno, non hai capito ancora dire, non hai capito ancora noi qui facciamo i cazzi nostri, capito? Noi possiamo chiudere il telefono in faccia a qualcuno oppure non chiuderlo, far parlare le persone, decidiamo noi, perché qui c'è la dittatura, cioè non c'è la democrazia, c'è la democrazia perché nel senso Erdogan, no, ma tutti possiamo possono intervenire, tutti possono dire la loro opinione, però a un certo punto noi decidiamo quanto fare intervenire una persona, la durata dell'intervento, cioè non c'è ho capito ma poi tu dopo non l'hai fatto. Comunque voglio dirti che diceva mio nonno, diceva non ci stanno i campani, non ci stanno i puttane, quindi i ladri, le puttane, le zoccole, i froci, i mariuoli, come dire, i drogati, i spacciatori, stanno dappertutto, e ti posso garantire che a Napoli forse un pochettino più sicuro delle altre città d'Italia. Sì, è più sicuro, sì, certo. Te lo dico io, tu sì, a Napoli puoi girare di notte a Napoli un pochettino sì. Molto, molto più sicuro delle altre città d'Italia. Guarda, può darsi, Milano, può darsi che sia così, ma per un semplice motivo. Io vivo a Milano, la sera in metropolitana, se dovendo abitare, ho paura, non la prendo. A Milano, la sera metropolitana, ma che sì, sei impazzito. Sì, ho paura, tu prova a prendere la metropolitana, prova a scendere un attimino alla stazione di Rocorito. Prova a scendere alla stazione di Rocorito. Ma può darsi che in alcune zone gli amici di parente che fanno la cacca a terra in mezzo alla... Quali amici miei, scusi? Quali amici miei fanno questa amici cosa? Di parente, i tuoi magazzini, quelli là di colore, tutto. Quali amici miei? I migranti, i clandestini. Ma di che cosa sta parlando? Quello che stai sentendo. Poi Napoli. Intanto se c'è qualcuno che fa la pipì nel lavandino, quello è Cruciani. Ancora questa storia. Quando noi conoscevamo questa storia, voi non sapevate ancora, voi ma che sei borbonico, neoborbonico, sei? Sono borbonico, sì, perché eravamo meglio. Hai la nostalgia per i Borboni, per il regno delle due Sicilie? Ma che neoborbonico, è neospostato questo, quale neoborbonico? Neospostato sei quale borbonico? Cruciani, Parenzo, che alto un metro, un pacchetto di sigarette. Vabbè, ma che c'entra adesso? Non è come dici tu, poi tu non so se sei alto, ti senti in difficoltà verso i piccoletti, che hai detto che forse sono più forniti, capito? Ma Parenzo comunque è un piccoletto in tutto. Sì, e certo. Tu non lo so se c'hai i coglioni. Io quella mattina se eri tu, quasi qua te lo volevo chiedere, dico, ma questo è lui o non è lui? E magari vedevo se decidevi tu di chiudere, di fare le trasmissioni. Senti, amico mio, il fatto stesso che tu sei neoborbonico. Non è una trasmissione, la radio è per informazione, dovete informare. È arrivato il professore, neoborbonico. Il professore neoborbonico che dice che Napoli è più sicura rispetto ad altre città. Certo, in alcune zone sì, perché controlla la camorra. Perché controlla la camorra. Ma perché a Napoli controlla la camorra e a Milano chi controlla? Ma nessuno, ma che c'è? Ma quello fanno altri, il controllo del territorio, il controllo del territorio. Ma che vivi dalla luna, vieni? Sì, dalla luna. Va bene, amico mio, se ti piace così Napoli, se ti piace così, tienitela. È uguale, Milano, Roma e Napoli è uguale, hai ragione tu, è uguale. I lati brutti ce l'hanno dappertutto. Ce l'hanno tutti, è uguale. Ma dai, su. Perché? Ma voi, Giuseppe dalla provincia di Alessandria, della civiltà. Sì, la civiltà. Ma chi se ne frega della storia? Ma chi se ne frega della storia? Ma che cazzo sei? Ma come te ne frega della storia? Ma chi se ne frega della storia, amico mio? Amico mio, senza futuro, senza passato, non c'è futuro. Giuseppe dalla provincia di Alessandria, ciao Angelo. Come lotta il Sor Cruciani, mamma mia, pure il neoborbonico ci capitava. Ah, Giuseppe, no, era solo un momento su Le Pen. Che io posso anche essere d'accordo su quello che dice, ma intanto uso l'immunità parlamentare da parlamentare europeo per scappare dalla magistratura. Vero, bravo, vero, bravissimo. C'è un vecchio detto, oltre tutti i soldi che entrare deve entrare nelle istituzioni per distruggerle dall'interno, le istituzioni per distruggerle, che è questa che è una cosa di capanna, sì. Questa è una cosa molto capanniana, questa cosa qua, distruggere le istituzioni entrando dall'interno come il signor Farage. Quella ha preso i soldi dal Parlamento europeo. Questo deve essere dimostrato. Dimostrato proprio un bel niente. 300.000 euro deve l'Unione europea. Quindi prima di far togliere quella bandiera, cominciasse a risarcire l'Unione. Perché anche tu ti dovresti sentire offeso dal fatto che la signora Le Pen non le ha fregati soltanto ai francesi, ma anche a te ha fregato quei soldi. Fottendosi i risparmi. Se ha fregato, è giusto che paghi. Se ha fregato, è giusto che paghi. Se ha fregato, è giusto che paghi. Come se. Non è sicuro. Ancora. Ah, non è sicuro. Se hanno fatto assunzioni, il capolista di noi con Cruciani dichiara: no, non è sicuro che la Le Pen abbia fregato. Sì, ma dai, siete veramente. Allora. Perché ha qualcosa da nascondere, che si faccia processare, non è sicuro, va là e risponde se è tutto a posto, perché deve scappare. Ma quella è un'altra questione che riguarda la Francia. Pellegrino, provincia di Napoli, ciao Giuseppe. Io era la Confindustria di Mestre che c'è scritto che è Cruciani di merda. Perché sono perfettamente d'accordo. Sei d'accordo? Che cazzo? Ma aspetta, un momento, Cruciani. Perché io tutte le mattine alle 6:30 vado in bagno e faccio la cacca. Cosa immagini che ci sia Cruciani? Esatto, è importantissimo. Guarda l'ora 6:30. Sì. Poi mi alzo e inevitabilmente la devo guardare. Io non so se capita anche te. Quando vai a cagare la guardi, quando l'hai fatta? Oh, sì, certo, io la guardo assolutamente. Vedi, ci penso, ma è brutta, puzza, eppure è la zanzara uguale. Lo vedi che però ci pensi anche se guardi la merda, merda e godi. Questi sono delle merde. Io sono cascato nel laccio della zanzara, mi stai sui coglioni. Non sono d'accordo con quello che dici, ma ti devo ascoltare. Ciao. Ciao. Allora, Nello dalla provincia di Lucca, vai Nello. Poi ciao, Pellegrino, ciao, poi Pellegrino, vai. Ascolta, ti ho chiamato per dirti sul comportamento degli extracomunitari quando viaggiano sui mezzi pubblici. Io e Gabriella abbiamo sempre viaggiato a Milano, Parigi, eppure anche nella zona qui locale. Ma tu e chi? Gabriella. Ma chi è Gabriella? Chi è Gabriella? È la mia compagna. Avete viaggiato allora? Di notte e non abbiamo trovato niente di che da questi estraditori. Ma mica ha detto che tutti. Ma mica ho detto che nei pullman succedono ovunque le stesse cose. Io stavo semplicemente registrando quello che diceva l'ascoltatore prima. Né più né meno. Non ho detto che succede ovunque. Succede in quei pullman lì a Prato dove c'è quell'ascoltatore che guida i pullman. Punto e basta. Ciao, Nello. Ciao. Allora, grande ritorno alla Zanzara, con noi Carlo Freccero, Carlo! Ciao Giuseppe, mi raccomando, sono stanco Giuseppe, sii clemente. Non ti preoccupare io Carletto, sono, lo teniamo a bada. Sono però molto adrenalinico Carlo, stasera Io no, allora cerca un attimo di darmi una mano. Ma non ti preoccupare, sono qui, io voglio metterti adrenalina, ti voglio bene. Ma io ti abbraccio, perché sei un uomo indipendente, hai il cervello che funziona da solo. Sì, non ti comanda nessuno, per cui per quello mi piace. Alla fine puoi dire cazzate come le posso dire. Io puoi essere. Allora cominciamo. Cominciamo. Dai. Allora, attacchiamo Parenzo. Dai. Attacchiamo avanti, subito Parenzo. Avanti, allora, avanti tutto, no, attacchiamolo tutto. Sulla questione di Report. Iniziamo subito sul Report. Allora, che fine fa Report? No, io difendo allora, Report. Io ti dico ufficialmente questa cosa. Dimmi. Ero in vigilanza sino alle ore 5. Aspetta, e la presidente ha confermato ufficialmente che non si toccherà avere Report, cioè la Maggioni sì, bene, bene. Questo l'ha già detto, questo sì. Ti confermo questo fatto, bene. Però quello che ti dico naturalmente, come tu sai, è che non si possono nemmeno fare le censure preventive, quindi questa cosa lo dico perché qualcuno vuole guardare i servizi prima, qualcuno vuole fare una. No. D'altra parte, dico qui, voi parlo appunto di un programma che ti ripeto che ormai viviamo in un mondo multimediale, quindi vuol dire che non esiste solamente la stampa e la RAI, ma esistono tanti media. E se tu, io, povero Cristo, quando per prepararmi anche in vigilanza, poi non l'ho detto, mi sono scaricato un po' di cose. Io ho visto che in Danimarca c'è stata una tempesta di fuoco sul vaccino. Assolutamente. In Giappone ho scaricato il fatto che il Ministero della Salute giapponese ritira la raccomandazione per la vaccinazione. Non solo, nel Regno Unito migliaia di ragazze danneggiate. Per cui se si anche affronta questo tema, che altro è un tema oltretutto che non è il morbillo, che sono malattie, ma sono cose che sono ancora da verificare. Sul papillomavirus, allora io dico una cosa, ragazzi, io ho visto Report come l'hai visto tu, ma come cazzo si fa ad attaccare un programma il quale dice esplicitamente di non essere contro i vaccini e pone un problema che riguarda alcuni effetti collaterali dei farmaci su un particolare tipo di vaccino? Ma no, ma è chiaro. Dunque, che dico è solo politica, ma è ovvio. Quindi che purtroppo mi dispiace tanto, ma siamo d'accordo, per cui dico agli ascoltatori non annoiatevi, ma purtroppo questa volta sono d'accordo con Giuseppe. Allora io però dico una cosa, Carlo, no, quelli che hanno attaccato Report, cioè molti senatori del PD, renziani eccetera, perché lo hanno fatto secondo te? Dimmela chiaramente questa cosa, Carlo, dimmela in maniera esplicita, perché attaccano Report? Perché vogliono salvaguardare la salute pubblica come dicono, o perché c'è sotto qualcos'altro? Ma chiaramente mi sembra che questo attacco del PD siano dovuti anche a un attacco in qualche modo a questa gestione RAI. Per cui sono tutte cose pretestuose secondo te, non c'entrano niente? Secondo me sono accentuate. Oltretutto vi racconto una cosa che mi interessa. Dico. Allora, voi sapete che Report fa agenda. Sì. Io parlo del report precedente. E il report precedente aveva fatto un attacco all'unità, eccetera, eccetera. Sì, come no. Ecco, purtroppo noi della RAI siccome ci sono queste critiche così forti, sì, non possiamo vampirizzare questa gente, agenda, non possiamo utilizzare l'agenda. Perché? Perché c'è la paura che aumentano in qualche modo, che le critiche aumentano. Ma secondo te verrà commissionato report da qualcuno, cioè, o rimarrà no, libero? Io spero di no. È chiaro che non ha report. Io poi conosco Sigfredo da tanti anni, guarda, ti posso bravissimo dire, giornalista, ma ha meno potere rispetto a quando aveva prima, quando c'era prima la Gabanelli, report. Beh, secondo te è più vulnerabile, La Gabanelli avevano ormai era un programma, aveva una sua classicità, aveva una cosa, un'autorevolezza garantita dagli anni, e lui deve acquisirla, però insomma anche Gasparri ha attaccato, beh, non è nuovo Gasparri, anche se Gasparri ma guarda, devo dirti una cosa, Mentana ha detto puntata sui vaccini Mentana sbagliati, ha detto un'altra cosa, ha detto che quando lui trattò il caso di Bella 20 anni fa, della terapia di Bella, no, ha detto la stessa cosa, ha detto è un errore da cui imparare, dai. Mi accorsi della delicatezza del tema, perché mettere sullo stesso piano il dottore di Bella contro i cosiddetti oncologi tradizionali fu un errore, ma non ha detto non parliamo. Vabbè, allora voglio sapere da Carlo, hanno commesso errori a report oppure no? Oppure è giusto parlare di vaccini in questo modo? Secondo me no, è giusto. Io sono convintissimo che dei vaccini bisogna parlare assolutamente, soprattutto dei nuovi vaccini. Perché vedo anche che tu hai dei dubbi? Anche tu hai dei dubbi sui vaccini? Io ho dei dubbi, sì, come? Perché per un motivo molto semplice dico che ho dei dubbi. Sì. Perché mi sono cominciato a studiare un po' la cosa e vedo che ad esempio tra queste sostanze e questi metalli creano soprattutto per l'Alzheimer. Ma chi l'ha detto questo? Non è dimostrato scientificamente, però, perché oggi ho letto tutto. Secondo te c'è pericolo anche per l'autismo? Secondo te? Io c'è altre, no, ecco, non c'è prova, dice ecco, Parenzo subito. No, no, ecco, non c'è prova, ma ci si comincia a nascere il dubbio. Ma io no, capito, che... ma il dubbio può nascere in qualunque su però, qualunque Carlo, cosa. Voglio però dirti una cosa. La domanda è: ci si può fidare della comunità scientifica? Cioè, di qualcuno ci si deve fidare, no? Dei punti oppure fermi sono ci in mano essere alle multinazionali. Io confido tanto nella scienza, ma la scienza, come tu sai, vedo che ha molti interessi anche privati. Esatto. Se io vedo, quindi posso avere anche il dubbio metodico anche verso la comunità scientifica, certo, assolutamente posso bisogna avere questa patente oppure proibito, e vuol dire che mi devo assoggettare prima a Dio adesso alla scienza? No, ma ha ragione no, Carlo, in questo caso scusami Parenzo, è... io devo dire, attacchiamo Parenzo su questo, Carlo. No, ma io difendo report, io su questo però fammi dire che io difendo report. Ha ragione report. Carlo, io nel mi merito... pongo dubbi su tutto, no. Sui vaccini, chiaro? Ma è ovvio. Scusa, che Carlo, suo... se avessi, dei figli, no, li faresti cazzo, vaccinare o dire, no? Li faresti aspetta, puoi avere un dubbio. Io farei vaccinare tutte quelle cose che ho fatto io quando in qualche modo erano le malattie ufficiali. Su queste nuove vedo che io Ci sono molti interessi. Sì. Ma cosa vuol dire interessi? Non, è ovvio che un'azienda farmaceutica abbia un interesse, è evidente, no? Perché è quella che c'è il brevetto, se no la ricerca scientifica non la fa. Fai una cosa, Carlo, fai dire una cosa. Vai. Dire una cosa. Allora, voi sapete benissimo che in qualche modo l'interesse che ha lo Stato è quello di in qualche modo dare l'istruzione e in qualche modo far vaccinare i suoi cittadini. Non vorrei che partendo da questa, quella che si chiama appunto il welfare, eccetera, le multinazionali vorrebbero in qualche modo approfittarne per estendere questi vaccini anche a cose che invece non sono ancora, che non servono, dici. Dove ancora non servono i vaccini, su cui non ci sono certezze assolute, è chiaro, io vorrei questa cosa. D'altra parte, cosa posso dire, mi sembra che ci siano dei, cioè il fatto che io dia spazio alle persone che hanno dei dubbi non è una cosa ma allora perché a livello, diciamo, o l'individuo ormai è in qualche modo santificato, posso santificare anche le sue in qualche modo i problemi di qualcuno. Allora, un'altra domanda è questa, sempre sui vaccini, poi chiudiamo sui vaccini. Ci vuole la libertà di vaccinarsi, secondo te? Cioè va estesa oppure l'obbligo è sbagliato? Ti ripeto. No, ma la tua opinione voglio sapere. Ecco, sì. Su tutte quelle cose che ormai hanno dimostrato degli anni. No, ma questo d'accordo, ci vuole l'obbligo oppure bisogna avere la libertà di farlo, secondo te? In questo regime liberista ci vuole sempre in qualche modo la libertà totale. Cioè tu lasceresti libertà di vaccinarsi alle famiglie? Io su questo... Ma c'è un problema di salute pubblica però, Carlo, scusami. Oh, c'è ma una se questione... vuole la libertà, ma anch'io no, mi interrogo, Freccero dice, ma ti interrogi ci su vuole che cosa? La libertà delle famiglie di decidere. Ma scusami, allora, ma posso, posso dirvi una cosa? Avete posso, un contrasto? Voi di destra, non è il caso di Freccero, ma è il caso di Cruciani, di voi con Cruciani, della lista destra, voi con Cruciani. Avete una contraddizione assoluta, perché volete le vaccinazioni obbligatorie per i migranti che arrivano, che dite che portano le malattie in Italia. Puttanata megagalattica. E poi lasciate la libertà di vaccinarsi ai cosiddetti figli dei ricchi, che siccome vengono così imbastiti da tutta questa puttanata contro i vaccini, avete no, libertà per loro. Cioè no, volete no, l'obbligo allora, per i migranti, Carlo, e la libertà allora, per i ricchi. Allora ripeto che ormai la ricerca scientifica fa sì che ci creano nuovi vaccini per tutta una serie di nuove... Meno male, allora, questo l'hai detto, certo, sì. Ma meno ecco, male. Ecco, dove non c'è una certezza matematica, bisogna lasciare la libertà. 99%, io lascerei la libertà. Tutto basta. Cioè... Allora, Carlo, quanto conta Renzi ancora alla RAI? Dimmelo chiaramente. Ecco, quanto, sì. Su quali, cioè, sono, quali sono i renziani ancora alla RAI? Quanto conta? Quanto si infiltra? Quanto vuole... Tu sai che Renzi conta ancora molto perché le primarie sono alle porte, bisogna vedere cosa succede con le dopo, primarie. Ma adesso, in questo momento, ancora riesce a influenzare programmi, persone, eccetera, secondo te? Beh, tu sai che non finisce mai il potere in modo rapido, ci sono sempre in qualche modo le comete, quindi chiaramente una cosa è certa e sicura. Sì. Renzi non è più forte in Rai come una volta, su questo qua mi sembra chiaro, ma è ancora forte, fortissimo, anzi, perché ha il consiglio di amministrazione dove c'è la maggioranza, sì. Prima cosa, sì. Quindi tiene presente questo fatto, per cui sì. Penso un attimo che qualche possa trasmissione finire. Direttamente molto poi, molto influente, esattamente tipo? Poi c'è tutta questa ideologia del nuovo, eccetera. Ma chi è che domina? Qual è la trasmissione ancora dominata da Renzi? Beh, diciamo? Guarda, posso dirti una cosa? Sì, te lo dico sinceramente. Cioè, il telegiornale mi sembra, quello della Rai 3 mi sembra a me fortemente ancora renziano. Sente ancora in qualche modo, non ha ancora subito il 4 dicembre. Credo e TG1 di Orfeo inseguito dai grillini? Lui è molto istituzionale. Cioè, renziano lui, anche lui? No, diciamo un attimo che ha una sfumatura alta anche lui. Ma antigrillino? Come dicono i grillini che lo inseguono? No, allora, che è molto. Allora, per lui i grillini non sono entrati ancora nella istituzione. Li considera. Li ignora. Ancora, non sono ancora entrati nella. Cioè, li considera dei barbari. Allora, li considera allora, dei barbari. Sì. Allora, ecco, posso dirti una cosa oggi? Te lo dico una cosa dimmi, che nessuno. L'Avvenire ha dedicato una pagina molto importante sì, a Grillo, è vero, sì. Invece mi ha colpito molto. Invece il TG1, questo è il paragone col TG1, volevi fare, vero? Ecco, questo qua, esattamente. Cioè? Mi sembra che l'Avvenire abbia percepito abbia l'esistenza di... sommatizzato di più, abbia istituzionalizzato di più che il TG1. Dico bene questo? Ma cosa, si deve lamentare un episodio di aggressione, quello subito dal direttore del TG1, no, Orfeo? Secondo me tu sai benissimo che siamo viviamo in un momento di controinformazione dove la rete ti deve abituare a dunque no, non rompere la rete, esatto. Ho capito, ma quella è un'aggressione, rete, è stata. Ma che aggressione, ma quale aggressione? Allora scusa, ma io quando parlo con te perché io tremo? Perché puoi fare gli scherzi, giustamente, puoi fare le voci. Tu dici non si può lamentare. Dici non si può lamentare. Ma questo è il gioco mediatico, per favore. Ma imparate qualcosa, viviamo ormai in questa cosa. Non si lamenti di due che lo inseguono e gli fanno delle domande. Ma dai, su. Ha ragione, allora dai. Lamentare che dire, c'è chiunque, io quando alzo il telefono devo sapere che sono in gioco, punto e basta. Cioè, e il direttore del TG1, ci sono due tizi che lo inseguono, giornalisti o meno, gli fanno delle domande, quale aggressione? Mica l'hanno aggredito, mica vabbè, gli hanno ma diventa una follia, ho capito, ma è una follia, è una follia di per sé, è ma una che follia, follia dai, è una cosa normale, ma il direttore del TG1 risponde alle domande o non risponde o se ne va, non è che viene, dov'è l'aggressione? Comunque, cioè, vedi, anche qui stiamo facendo un uso politico di queste allora, cose. Fermo un attimo ragazzi, così, torniamo con Freccero per un rush finale, qualche istante. Dopo la pubblicità, sì. Tutto cambia. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. A me piace Parenti. La Zanzara. Quelli che non scorreggia neanche davanti a tua moglie, te guarda, fai ridere, ma che uomo sei? Questo potrebbe essere un tema, però, quelli che scorreggiano davanti alle proprie consorti e quelli che non scorreggiano davanti alle proprie consorti. Io e mio fratello sono anni che andiamo avanti in un dibattito del genere. Grande dibattito, per il momento siamo con il mito della televisione italiana, sì. Uno dei miti della televisione italiana, vale, grande guru, Carlo Freccero. Allora, mi scrivono, caro David, sì. E caro Carlo, questa cosa, cita le 5 milioni di dosi per la viaria. Comprate dallo Stato e che non sono servite a nulla. Cioè, nel senso che qualche volta sui vaccini esistono anche le truffe, esistono anche le multinazionali che ci vogliono guadagnare. Come c'entra? No? Furono comprate delle dosi che non sono servite a nulla. Ma certo, e ma ti va cito bene, anche altre cose. Ed è giusto, però, io sto dicendo che è giusto informarsi, è giusto che Report faccia le sue inchieste ponendo dei dubbi sulle controindicazioni. Che paura dobbiamo avere? Perché c'è uno, un virologo molto importante come Burioni, che ogni volta ci dice no, sulla televisione pubblica non vanno dette queste cose. Ma chi cazzo è per dire che sulla televisione pubblica stanno tornando alcune malattie proprio a causa sulla di televisione pubblica che nascono quando le cose net. Quando no, ma Davide, scusami, quando come le cose sono fatte Freccero, bene quando nella rete oggi, a differenza di qualche anno fa, chiunque ma può fare il medico dire? Di se stesso, purtroppo, e questo porta al fatto che nella società disarticolata ma e invertizzata, se vuoi, no, ma è un dato di fatto. Sto dicendo che qualunque, te la dico così, qualunque minchione può scrivere, può essere autorevole. Ma non hanno intervistato dei minchioni a Report. Ancora. Ma che vuol dire? Non hanno intervistato ma dei no, minchioni. Infatti, ti hanno posto dei problemi concreti. Report. Basta, io punto. Report. Ma perché oggi, sulla televisione pubblica non perché so. Perché oggi la vulgata è dai alle multinazionali perché sono cattive. Ma questo, no. Il tema vero è questo qua oggi. Fanno cioè, delle cazzate ogni Davide tanto. Davide contro no. Golia. Ma come tutti? Ma ora, chi c'entra? Domanda ma a Carlo Freccero. Ti fidi delle multinazionali, Carlo? Ti fidi? No. No, non si detto? No, no, no, non si fida. Urlato. No, no, non si fida. Sbaglia. Dai, un po' di dai, ma avete dato un po'. Ma per favore. Ma Freccero oggi è il Toni Negri della televisione. Carlo Freccero è oggi il Toni Negri della televisione. Quindi deve stare per forza. No, però voglio rifare la domanda. Parte. Aspetta, la domanda. Ma giusto che sia dall'altra parte. La domanda è questa. Sempre dall'altra la voglio parte, rifare. Ti fidi o no delle multinazionali, Carlo? No, no, no, assolutamente no. Assolutamente no. Non si fida. E allora curati con le ortiche. Curati con le ortiche, vai da Vanna Marchi e curati ma da Vanna c'è? Marchi. L'alternativa ma non è Vanna Marchi. Cioè, dai, vabbè, stamina. Vai cioè, da stamina. Mi cazzo io, adesso mi te livello di Vanna Marchi, va bene. Vai cioè, da stamina. A questo punto cosa facciamo? Cioè, hai ragione giochiamo. Carlo, che cazzo dici? Non è che l'alternativa è o le multinazionali o Vanna Marchi. Uno si informa su quello che va bene o quello che non va bene. Non dire cazzate, Parenzo. Ma guarda dai. Che il tema non è questo Carlo, qui. Il tema ma è assurdo, adesso ti ha dato ti ha detto di andare per il problema di Parenzo è che giustamente deve fare il politicamente corretto. No, ma non c'è io nulla di molto guarda bene. Che la cosa politicamente corretta la stai dicendo tu, perché ormai il mainstream è quello che dici tu, cioè no, multinazionali cattive. Certo, no. Il mainstream è il tuo, non difendere è... i vaccini no, oggi vuol dire stare dalla parte delle multinazionali non è vero, cattive. Tutti questo purtroppo è. No, non è vero perché scusami tanto, le multinazionali stanno vincendo sul piano economico, mentre io non vinco niente. Dai, ti prego, non dir cazzate su. No, ti tu prego. Sei le multinazionali la, sei la classica mercato. Tra oggi. La retorica di Freccero, che è una retorica vabbè, autorevole e simpatica. Allora, ragazzi, sì. C'è la partita. Vi saluto. Vabbè, no. Si cazza. E perché ti cazzi? Lascia allora, ti dica. Un'altra cosa, scusami. Sei Carlo, Toni Negri Carlo, della televisione, Carlo, va benissimo. Ma, Benigni che querela Report, come lo giudichi? Chi? Benigni che ha querelato Report. Beh, questo proprio mi fa un po' tristezza, anche perché non ha detto nulla di grave, cioè un'altra cosa, cioè non so. È una cosa vergognosa, secondo te, questa roba di Benigni che querela Report? Avrà diritto anche lui, se si è incazzato, di querelare, cioè sarà un diritto suo, no? Cioè, o no? Su questo che abbia e diritto allora, di basta, fare mica ha chiesto vuole, la chiusura a Benigni. Capire, su questo, per capire, io difendo qualunque cosa, cioè, d'altra parte tu sai benissimo che chi fa informazione deve sapere esattamente certo. Che... deve sottoporsi al giudizio. Appunto. Però perché ti mette tristezza, dici? Perché... ma sì, perché dici il renziano Benigni, il renziano Benigni, Benigni diventato renziano mette in discussione l'informazione che prima non l'avrebbe fatto, cosa... prima non l'avrebbe fatto, dici. Ma no, sì, appunto, poi è triste, perché secondo cioè, me... Cioè, i Benigni di una volta, il Benigni non renziano non l'avrebbe fatto. Ma perché renziano? No, fatto. Ma perché renziano, Benigni? Benigni è Benigni, beh, scusa. Sì, purtroppo è diventato così, è molto triste. Ma è come dire, il Freccero 5 Stelle, allora. No, ma c'è cioè, non fa... È uguale. Beh, ecco, per me puoi dire qualunque Freccero cosa. Freccero 5 guarda. Stelle, allora. No, chiaramente... chiaramente Freccero è Freccero, per no? Cosa. Freccero, per me cosa. Freccero è Freccero, non è Freccero 5 Stelle. Spero allora, che Freccero sia c'è solo una cosa, vedi, che cosa? Ci sono sempre due possibilità. O il servizio è falso e allora appunto. Se ne discute in tribunale. Bravo, bravo. E allora, se è vero, devo accettarlo, quello che dici io. Poi, non, poi ti ripeto, poi non è una cosa detto solamente che ha recuperato una parte dei... dei soldi, cose, sì, degli investimenti fatti. Non mi sembra che sia stata poi una cosa gravissima. Senti, altre due cose, Carlo, poi ti lascio. Sì. Di Maio ha ragione quando parla che bisogna non lavorare il sabato e domenico, dice una puttanata pazzesca. Di Peio, no, Di Maio, Di Peio, di male in Peio andiamo. Allora, delle Parenzo ha detto la sua chiaramente su Di Maio, Di Peio, detto, Di Peio, mi sembra una uscita da Di Peio, manco Jospin, manco Jospin ormai ci crede più alle 35 anche ore. Il Vaticano forse. Dimmi, allora Carlo, posso dire dimmi. Cioè, purtroppo siamo talmente in un clima di povertà che bisogna anche per molte persone bisogna, esatto. Devono lavorare anche non solamente bravo. Ma anche sabato notte, esatto. La domenica notte, esatto. Purtroppo questo vuol dire il clima che è arrivato in Italia, cioè che il grado siamo vabbè. Ritornati un però po' la domanda è chiara, ha detto una cazzata oppure no Di Maio oppure no, ha detto che un sistema no, rompe le famiglie. Io sistema, sì, chi lo dice è il Papa, non l'ha detto Di Maio. No, Di Maio ha detto che rompe le famiglie pure. Cioè, sì, lo disse sì, anche il Papa. Certo, il Papa ha detto che rompe le famiglie. Quello, Di Maio non ha preso altro che beh, in qualche modo l'affermazione del Papa. Beh, per te non è una cosa bella Di Maio come il Papa, diciamo. No, dico una cosa che in questo momento vedo, ecco, abbiamo constatato stasera che mi sembra una cosa molto interessante che 5 Stelle si in qualche modo trovano un alleato nella Chiesa Cattolica, ma, questo qua è dubbio. Beh, ho capito, questa è la constatazione, ma tu che ne pensi? Che sia, cioè, vuol dire, che è una puttanata? Io vorrei questo... tanto che tutti quanti non potessero lavorare il sabato e la domenica, o meglio, ho capito, meglio ma nei sogni lavorano, nessuno dovrebbero prendere il tre volte tanto quelli che devono lavorare. Cioè, tre volte tanto? Tre volte? Sì. Cioè, secondo te chi lavora il sabato e domenica dovrebbe prendere tre su volte questo, su questo ha ragione più, due. No, mi sembra normale su questo ha ragione ma quando mai ma questa su questo è una cazzata, ha ragione ma siete pazzi ragione. Ma che mondo vivete, un mondo dei sogni e, vivete, e te lo dice uno che ha vabbè, la partita mondo... IVA e quindi senti, ti farebbe piacere se la Le Pen vincesse? E allora qui siamo in un discorso molto interessante. Sì. Allora, innanzitutto sì. Non vorrei sapere come sono domenica sera verifico se i sondaggi sono veri vabbè, oppure quello, no. Quello ma in generale. In generale, ecco. la Le Pen che dice, ti farebbe piacere per scardinare il sistema? Vorrebbe dire allora che esiste ancora la destra e la sinistra. Se vince Macron vuol dire che neanche in Francia non esiste più questa differenza, esiste solo il pensiero unico. Quindi io siccome sono per le differenze, no, non è che io ma tu non fai il tifo della Le Pen come hai fatto il tifo per Trump o no? Cosa voteresti no, in Francia? Io dicevo che Trump avrebbe vinto, non facevo il tifo beh, di un Trump, po' sì, beh, dai, un po' sì. Puttana. No, dicevo che Trump avrebbe vinto perché la Clinton. Ma in Francia cosa voteresti? Macron? No, lo sappiamo, allora, evidente. Ti dico una cosa, io voterei Mélenchon perché è molto molto forte. E tra Macron e Le Pen chi voteresti? Al ballottaggio tra Macron e Le Pen? Chi voteresti? Dimmi la verità. Non andresti a votare? Questa volta non voterei, ecco allora. Cioè la fascista Le Pen non ce la fai, non è troppo andare. Per te. No, è troppo. No, non no, al limite non lascerei fare gli altri, non andrei, ecco, te lo dico sinceramente. Non andresti a votare? Non andrei a votare per Macron. Cioè ti farebbe piacere se Di Maio fosse il nuovo Presidente del Consiglio, ti piacerebbe? Non credo che sia lui. Ciao, ti abbraccio. Ciao, ciao. Caro. Ciao. Non ciao, credo ciao. Che sia lui. Sempre un grande, sempre un grande, beh, Carlo come, Freccero, come un grandissimo, professore, un grandissimo. Come combatte. Stefano da Milano, vai Stefano. Naturalmente, sì, buonasera, dimmi, io vorrei dimmi. Far presente a Parenzo, visto che dice sempre che chi va mignotto è un vigliacco, un miserabile, un no, è uno quant'altro. Che non ama il corteggiamento delle donne, che gli basta pagare per avere un servizio, per capito? Vabbè, uno questo. Può essere brutto, insicuro, può essere timido, può essere che sì, non sa fare. Uno può avere N motivi. Ora, preso atto di questo, caro Parenzo, visto che rompi sì. tanti coglioni a chi va a puttane, dici: come si chiama ah, ma quanto è bella l'arte di saper come si chiama questo nome di battesimo? Stefano. Ah, ma quanto è bella l'arte di saper corteggiare una donna, sì. Portarla a cena no, e allora ti faccio. ti faccio una proposta, senti qua, sì, apri una scuola di seduzione, senti come suona bene, scuola di seduzione da David Parenzo. Buono, eh? Questo, buona idea, wow. Vedi così che ogni tanto uno intelligente chiama. Se è una cosa tanto, che porta soldi, Parenzo è d'accordo, ti posso assicurare. Così esatto, educhi bravo, tutti esatto, questi bravissimo, poveracci certo, a scopare senza dover andare sì, a puttane. Tu eh? Sei il primo iscritto gratis, guarda, tu sei il primo iscritto gratis. Secondo me almeno la metà il numero di persone che va a puttane, quindi ridurresti comunque. Però ragazzi, io dico una cosa, scusate, ma perché bisogna aprire le scuole di seduzione? Già ce ne sono, esistono mille scuole, anche le scuole di seduzione. Se uno... Ma Parenzo, ma smettila di dire stronzate, ma che cazzo ne vuoi sapere tu di come si seduce una donna che non sei nemmeno in grado di parlare di sesso? Che quando ma si che ne sai sesso, tu di come si seduce? Parenzo è andato Stefano, via bene appellitivo, ma che Stefano, cazzo ne vuoi sapere? Quella è una che se non hai capito bene, però va bene lo stesso. Per carità. L'altro giorno al telefono con Ilona sì, Stanner ti sei eccitato come un ragazzino all'idea che lei potesse essere sì, nuda dall'altra parte del telefono. Lei dice... Appena, no, quello non sarebbe niente come di strano. Come dicono in Piemonte, lei dice... Però non sarebbe niente di strano se uno, se uno all'immagine di Ilona Staller che si sì, spoglia e gira per casa nuda, uno potrebbe anche no, come diceva Montanelli ha... l'uomo non è di legno, come diceva scusami ho capito, ma è, ha una sì, telefonata di Stefano, mi dia retta, di Stefano mi dia retta, torni a casa anche velocemente perché alle 20:10 a casa sua si stanno già divertendo, torni a casa va. Mi dia retta. Se non riesci a renderti conto del mi fatto dia che retta, le puttane, i giro, mi dia le retta, persone, mentre tutto lei parla sua moglie a casa non sta sociale, cucinando la pasta asciutta, mi dia retta, dia retta a me. Allora Antonio dalla provincia di Ascoli, mi vai dia Antonio retta, mi dia retta. Buonasera. Dimmi. Volevo intervenire sul discorso precedente di Lancio Ansa e poi la tua risposta che hai dato al telespettatore urlata dicendo che la risposta che hai dato dicendo che allora vuoi dire che le altre città hanno lo stesso problema di Napoli, che ci sono delle zone completamente in mano ad organizzazioni criminali. Allora io ti chiedevo semplicemente il tuo è stato una provocazione sociale, scusami, o gli dai proprio un Antonio, adito giornalistico Antonio, scusa, questa, Antonio, no, perché, Antonio, scusami, Antonio, scusami un attimo, sì, scusa, la serie Gomorra dove era ambientata? La serie Gomorra, non dove era Bergamo? Dove era ambientata? Non a Bolzano. Dove era ambientata? A Trento? A Bolzano? A New York? A Bologna? A Bologna era ambientata? Era ambientata? A Lecco? I Sopranos dove è ambientata? Ma chi ha detto che a New York non c'è mai stata la mafia? Scusa, ho negato che a New York... No, e allora? Hai strillato dicendo Gomorra che Napoli è adesso l'unica città. Non ho detto l'unica. Chi ha detto? Delle zone... Tu hai detto. Ma certo, è l'unica. È una delle città. È una delle città. In Italia. In Italia. In Italia. Italia è una delle città importanti, esatto, sto dicendo, importanti, esatto, è l'unica città importante dove intere zone sono dominate dalla camorra. Allora ti do una notizia. Sì. A Roma, dove io ho la mia famiglia, dove ho vissuto 11 anni. Anche a Roma uguale, ma se la cosa ti consola, che esatto, vuoi mettere sullo stesso piano il controllo che ha la camorra del territorio rispetto alla microcriminalità o a alcune bande che ci sarebbero a Roma, non risultano bande così organizzate come la camorra a Napoli, che pure si è slabbrata, se vuoi consolarti dicendo che a Roma è la stessa cosa. Va bene, accontentati. Ci sono delle particolarità, Antonio, ci sono delle specificità che tu non puoi cancellare. La camorra, il controllo del territorio, a Napoli c'è, in altre zone non c'è o ce n'è meno, chiaro? Sì o no? Quello che voglio dire, io voglio sapere se il tuo era un esperimento, no, roba da pazzi, italiano, se era un esperimento sociale per aizzare. Ma non c'è nessuno a iniziare. Ho detto una cosa, Gomorra, dove l'hanno girata? Dove l'hanno girata? A Castellammare di Stabia. Vabbè, dove l'hanno girata, esatto. Dove è ambientata? A Secondigliano. Dove, esatto, dove esatto, è ambientata la Narcos? Dove è ambientato? Dove è ambientato? A Medellin. Non è che c'è qualcuno che dice a Medellin state, certo, state diffamando Medellin. Così, perché a Medellin ci sono i trafficanti di cocaina. Guarda, chiaro? Ti reputo spesso più in accordo con la camorra. Ti reputo più intelligente di De Magistris. Questo non lo so, dicendo, intelligente, non intelligente. No, ma no, te lo dico io. Io non sto dicendo, non sto negando. Io stavo accusando il taglio giornalistico che tu hai dato. Ma non c'è nessun taglio. Ma la chi se ne frega? Ma le persone se ne fottono di queste cose qua che stai dicendo, il taglio giornalistico. Gomorra, dove l'hanno girato? Ma il controllo del territorio, Gomorra, dov'è? Era ma la risposta a quell'ascoltatore che diceva ci sono problemi ovunque, ci sono problemi ovunque. Il controllo del territorio, bene, non a è Napoli c'era 30 anni fa, certo, adesso non c'è più, te l'ho detto prima, te l'ho detto prima, ce n'è di meno, è un controllo diverso, te l'ho detto prima. Non c'è più, non va bene, allora non c'è più. Camorra è microcriminalità che si sta sempre hai ragione, di più hai ragione, sperimentando. No, ma hai ragione, così, hai ragione te. C'è sempre un controllo. C'è sempre un controllo. Ci sono 14 anni che girano con la pistola in tasca. Ci sono, sì o no? Ci sono, in altre città o no? Sì, ci sono, sì, i ragazzini? Sì. No, non ci sono, come lì. Come no? Non ma ci sono. Ci sono. Non mi apri i giornali, a Roma. A Milano ci sono gang di sudamericani, certo, ci sono gang di sudamericani. Saltano 8 pullman in 20 giorni. Ragazzi, se volete dire che è uguale, se tu pensi che sia uguale, va bene, accontentati di dire che è uguale. Non è uguale, non è uguale, non è uguale, non è uguale, Antonio. Io parlo con i fatti. Ti abbraccio, ciao, ti abbraccio. Beppe, porca puttana. Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta La Zanzara. Cruciani, quando tua figlia saprà chi veramente era il padre, ti ripudierà, ti schiferà. Merda umana. Cruciani, dopo che tua figlia avrà scoperto chi veramente era il padre, penso che non ti accudirà neanche gli ultimi giorni della tua vita, quando sarai una larva umana, merda, come lo saremo tutti, merda. Beppe, porca puttana. Io dico una cosa, caro David, ma perché la gente mette in mezzo i ragazzini? Cioè mia figlia, sì, questa, eccetera. Questa, no, questo seriamente. Ragazzi, potete insultarmi. No, ma io lo dico. No, no, ma lo dico se volete mettere in mezzo mia figlia, mettete pure in mezzo. A me darebbe sono molto, molto fastidio. Quindi no, perché ho voluto far ascoltare queste cose apposta. L'ho voluto far ascoltare perché le persone mi possono tirare le pietre, mi possono criticare, mi possono distruggere, possono dire qualsiasi cosa. Ma cosa c'entra tua figlia? No, non ti ripugnerà, fa schifo. Non ti... Ma non c'entra niente, una cosa ridicola. Sì, fa schifo, va bene, io non dico nemmeno fa schifo. No, io dico fa schifo. Tutto perché... quello che viene, come dire, che viene anche detto in maniera mostra con la pancia. Una disumanità, ho capito, però mostra no, un imbrutimento totale. Ma non c'entra nulla, ma non imbrutimento, non è, sì, non un è tanto quello. Come voglio lo vuoi dirlo chiamare? Con pacatezza questo, incredibilmente, con pacatezza questo cretino. Cioè lo voglio dire con pacatezza perché è un cretino, resta comunque un cretino. Ti credo. Cosa c'entra? Cosa c'entra tua figlia? Cioè mia figlia come mi guarderà tra non so quanti anni? Ma che ne sai tu? Ma che ne puoi sapere? Che ne puoi sapere? Allora, Davide da Milano. Oh, Davide, ti segnalo un fatto gravissimo che mi scrive Mattia, non dirò il cognome. Dice: vabbè, ma com'è possibile che sulla Torino-Milano vi si sente malissimo? Amico questo, mio, come facciamo a ridere? Mandami quel WhatsApp. C'è un WhatsApp, c'è un WhatsApp proprio sulla Mattia, ricezione di Radio 24. Quando ce l'avete pronto, me lo dite. Amico mio, vai. Cruciani, siamo quattro sconosciuti che fanno car sharing sulla Salerno-Reggio Calabria, tre italiani e una bielorussa. Volevamo ascoltare la Zanzara, ma non prende mai. Tutte le radio locali vi coprono il segnale, fate cagare. Attaccatevi alle antenne di Radio Maria, per favore. Capisci, sì, capisci, sì. Se noi avessimo... Vabbè, lasciamo perdere. Ciò conferma quello che mi scrive Mattia. Davide che... da Milano, vai, Davide, Davide, dimmi. Sì, sì, Cruciani, allora, sullo squirting le pagine migliori delle ultime settimane, veramente eccezionale. Sì, Freccero, sì. Scandaloso. Perché scandaloso? Che ha detto di scandaloso? Ha detto le sue opinioni, cioè ha manifestato... No, te lo spiego cosa ha detto di scandaloso, che lui si informa. Oddio, ci ha reso noto che Freccero si è informato. Ma su che cosa, dimmi? Sui vaccini, cioè Freccero che non ha nessuno strumento per valutare. Ma perché qual è il problema? Ma non ho capito. Qual è il problema? Ma perché uno non si può informare? Così. Perché siete così spaventati? No, c'è cioè, la può. Casta, tu sei non uno scienziato? Può. Sei uno scienziato? Certo, sono di che uno scienziato. Occupi? Sì. Di che ti occupi? Di telecomunicazioni. Benissimo, d'accordo. Sì. Non ho capito, perché che volete fare? La casta? La casta no, degli no, scienziati? No, no, no. Cioè uno deve fidarsi ciecamente, non si può informare? Non si può informare autonomamente? Perché avete così paura del fatto che una persona si possa informare? No, ma dipende come poi dove reperisce le informazioni? L'informazione va veicolata, perché non organizzate uno scontro tra i sostenitori contrari al vaccino in ambito scientifico? No, amico mio, ma quello lo fa un'altra cosa. Bruno, cosa c'entra Davide? Cosa c'entra? Ma non c'entrano. Ma non sono tutte uguali le trasmissioni? Ma che dici? Ma che dici? Non dire stronzate. Ma divertenti, ma se si vuole parlare di come vola un aereo, per cui, niente da fare. Ma chi ha detto nessuno è entrato nel merito scientifico dei vaccini. Qualcuno lo farà, anche lui lo farà, ma non è che uno deve essere per forza scienziato per farlo, può sentire delle varie opinioni e farsi un'idea di una cosa. Ma perché vi fa così paura il fatto che una singola persona non si affidi a Davide, non si affidi a quello e voglia in qualche modo, poi le istituzioni hanno il loro compito eccetera, perché vi fa così paura il fatto che una persona si informi? Non riesco a capire, non si può informare, non è uno scienziato, ma chi cazzo sei tu per dirlo? Non ho capito chi sei per dirlo. Però è vero che la gestione delle notizie riguardanti materie scientifiche non dipende dalla sensibilità ad minchiam del signore intervistato per strada. Lo vogliamo far votare via web il miglior vaccino? Ha ragione questa persona qui, cioè va adottato un codice di comportamento su queste cose. Possono parlare gli scienziati, ma non è che parla su cose tecniche. È inutile che arriva l'uomo della strada e ci spiega come costruire un ponte. Scusami un attimo, la BBC ad esempio ha fatto una cosa straordinaria, aspetta un attimo, Davide, ha creato degli elenchi di esperti accreditati parlare di sono alcuni temi. Quindi c'è anche un pensiero unico. Però esperti accreditati, cioè che hanno titoli per parlare di quella roba. Non il minchione di stamina. Vabbè, vi fa paura il dibattito, la democrazia. Le vanne marchi mi fanno paura. Bruno da Roma. Pronto? Dimmi. Pronto. Buonasera, io volevo intervenire sulla faccenda dei vaccini. Sì, però adesso non ci fate due palle così con questi vaccini, perché qui non è report. No, non è report, io manco l'ho visto report. Di che volevi parlare tu? Che fai, medico, lo scienziato pure sono tu? Sono medico. Scienziato, sono professore universitario. No, perché da mica ti ho detto... Ma a vedere su Research Gate e io vedi chi sono. Ma non voglio nemmeno sapere. Volevo parlare solamente di una cosa, la speculazione che stanno facendo e che noi siamo le principali vittime in Italia. Di che cosa? Multinazionali con gli antibiotici. Noi siamo il quarto paese del mondo che spende di più per antibiotici e le malattie infettive qui da noi sono in crescita per questo motivo, perché vengono messi sul mercato in maniera spudorata, sempre nuovi antibiotici, siamo costretti a usare sempre nuovi antibiotici che costano sempre di più. Cosa provoca questa cosa? Cosa provoca? Che si muore le broncopolmonite, per esempio. Cioè, tu stai dicendo che c'è una specie di lobby delle multinazionali degli antibiotici? Non è la lobby. È tu che lo dici. Io dico sì, sono le multinazionali che sfornano ogni sei mesi un antibiotico nuovo con effetti collaterali pazzi. E non servono questi antibiotici? Non serve fornarne tanti. C'erano le penicilline che sono arrivate alla terza generazione, poi le cefalosporine. Adesso ci addentriamo in un discorso. Io sto dicendo le multinazionali ci stanno massacrando. Noi spendiamo tanti soldi. La nostra sanità. Parenzo, che dici tu rispetto a quello che dice Bruno? Perché non lo vuoi sentire? Allora invece adesso mi sente per punizione. Perché lui non questa cosa non la capisce. La capirà forse un giorno. Cos'è che non capisco? Scusi, sciocchino, cos'è che non capisco? Scusi, sciocchino, non ho capito. Scusi, sciocchino mio, non ho capito che cosa ha detto. Sciocchino, qual è la sua importante tesi di fondo, sciocchino? Forza. Non è la tesi. Qual è la realtà, è un professore universitario. Qual è la realtà, sciocchino? Sentiamo, sciocchino, qual è la questione? Qual è? Testi su che cosa? Parla più forte, Bruno. Senti, sto in un ristorante, non posso parlare forte. Ha telefonato, però allora abbandona un attimo la sua cena. Esce. E allora non mi rompa i coglioni. Ho aspettato mezz'ora e ho detto quello che ho detto. Le se no si raffredda la pasta asciutta, la matriciana, no, si, eh? Si raffredda la melanzana, la parmigiana, si raffreddano. Le non mi piace. E allora cosa si raffredda? Il brodino con la pastina di Natale. Bruno, però ha ragione Parenzo in questo caso. Scusami, mi attacchi. Ma lei mi fa ridere perché mi attacca. Non posso interloquire perché le si raffredda la minestrina al burro squallida che si mangia. Le multinazionali non ci massacrano, non ci fanno massacrare. Io ho detto un'altra cosa. La tesi di Bruno è questa: le multinazionali ci massacrano con gli antibiotici. A questo servono gli stati, a questo servono i ministri della salute, a questo serve il governo della sanità, no? È evidente. Ma il tuo mio non c'entra, non c'entra niente, la Lorenzin, questo o quell'altro. Io dico che grazie alle multinazionali si fanno le scoperte scientifiche con i loro brevetti, perché le multinazionali ovviamente investono. Senta, faccia così, vecchio mio, torni a mangiare la sua minestrina al burro, torni a mangiare la sua minestrina al burro, che altrimenti si raffredda e non mi rompa i coglioni. Però allora, ragazzi, comunque la notizia di oggi più importante, lo sai qual è? Un infermiere fingeva di vaccinare i bambini, ma gettava le fiale. Questo è un crimine, è un crimine inaudito quello. Ma assolutamente, bisogna capire che cosa aveva nella testa questa, se era un antivaccinista oppure semplicemente matta, perché due sono le cose. Semplicemente matta, dai, ma figurati. Fermi tutti. Lasciati un Parenzo e alla defecarsi non ci penso. Beppe, porca puttana. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento La Zanzara. Se domani l'Italia legalizzasse la prostituzione, dopodomani il Canton Ticino fallirebbe. Siamo veramente dei coglioni. Io volevo mandare un messaggio a Parenzo che dà dei pervertiti, dà dei maiali a tutti quanti, no? Quelli che vanno a prostitute, quelli che vanno a mignotte. Io sto parlando da un villaggio alle porte di Bangkok in Thailandia, dove c'è questo residence, tutto regolamentato, tutto legale, eccetera, eccetera. Con l'equivalente di 10 euro le signorine ti fanno prima un bidet, poi ti fanno un massaggio, poi c'è la trombata e poi c'è un altro bidet. E figlio mio, credimi che ci sono le cinesine, vabbè queste sono thailandesi, non sono cinesi, che hanno la fregnetta piccola piccola piccola, che porca miseria, mi sembrerò così freddi. E poi la sera nel residence ti fanno mangiare il porcellino d'India, il porcellino d'India, eh? Siamo al top. Che è un bel ambiente, ambiente di maiali. Vi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così, un mondo così fa cagare! Allora, Anna da Milano, vai, Anna. Anna? Buonasera, eccomi. Dimmi, Anna. Niente, io ho sentito quelle parole meravigliose che hai letto ieri sullo squirting. Sì, Emmanuel Carrer era lo scrittore, Emmanuel Carrer. Sì, allora, ha detto delle verità straordinarie. Ma cosa dice sta signora? Ma sta dicendo che quello, Emmanuel Carrera, ha detto delle cose straordinarie sullo squirting. Chiedo venia, signora. Quanti anni ha lei esattamente? 47. Ecco. Vai. Lei squirta, signora? Ecco la domanda. Sì, è tanto. Ma infatti, le sembra il caso di telefonare in una radio nazionale autorevole come questa? La fai parlare? Sì, per carità. Dimmi. Dottore, allora, tanto uscito con Tronchetti, Plovela. Non importa. No, guarda che ci sono persone poche, ma normali, non sono fenomeni da baraccone che squirtano. Primo da questa sapere, voce, sì, non ha né colore, né odore, né sapore. Quando ha odore e colore, è urina, non è squirting. Ma lei ha fatto uno studio su questo, cosa signora? Dice stasera? Da morire. Io ci ho messo anni a capire. Ma lei quanto squirta? Tantissimo? Che domanda è? Mica è il report questo? È devo però asciugare la camera. Addirittura? Quando... Deve asciugare la camera? Esatto. Cioè, che vuol dire? Una di 46 anni, è una porcheria che chiami scusa, in diretta Anna, così. Anna, dai. Anna, scusa un attimo, se tu sei a letto col tuo compagno, col tuo amante, non esatto, so con chi esattamente, cosa succede in quella stanza nel momento in cui iniziate un'attività sessuale? Cioè, ma dal punto di non detesto i preliminari, non ho bisogno, ma che cosa sono i preliminari? Ma se adesso i preliminari, se hai una voglia pazza di far l'amore con la persona che è con te. Ma questa è sì, quello è vero, però alcuni vogliono fare anche la radio. Alcuni ma vogliono... dopo li facciamo dopo li vabbè, adesso prima o dopo, adesso non sarà quello il problema. Ma voglio capire cosa succede dal punto di vista della cosiddetta inondazione. Ecco, quello inondazione mi... appena la persona che io adoro, che amo, sì, mi sfiora, sì, io raggiungo l'orgasmo. Anche solo con un bacio. Ah, dottore Bloody Mary, subito Bloody Mary per il dottore Bloody Mary pronto. Sì, ma ho capito, ma che succede dal punto di vista dell'inondazione? Questo voglio capire, che lei raggiunga l'orgasmo prima o dopo. La camporella, immagini quando a uno viene voglia di andare in camporella. Ah. Dottore, taltine, salmone, allivate, dottore. Le radio non vanno più. Cioè, in che senso? Non ho capito. Talmente si allaga tutto... che anche gli impianti elettrici saltano. Cioè, ma voglio dire, la dottore, stanza è caduto Maltini, ha allagato tutto, dottore, è caduto Maltini, ha allagato, no, l'audio. Fai, non fare ridere Anna, che è seria in queste cose qua. No, Anna sta ridendo. Serissima. È serissima, cioè tu allaghi la camera completamente? Sì, e poi asciuga. Poi asciuga i muri, i mobili, le cose. I mobili, ma c'è un getto, come dire, forte? Oh, mamma, parliamo di Calenda, dai, parliamo del ministro Calenda un attimo. In un'ora d'amore, non so. In un'ora che succede? È una radio economica questa. Lei viene 30 volte, questa è una produzione fordista. Viene, viene. E squirto sempre. È come se ci fosse un ricaricarsi... di passione, di voglia, scusa, ho messo l'apparecchio, quindi parlo un po' così. È una cosa, una follia. Ma è, una, è sempre stato così da quando eri giovane? Allora, non è il caso è di sempre stato così, sì? Adesso che ho trovato una persona che è stata in grado di farmi esprimere per quella che sono. Cioè, prima ti vergognavi? Molto, io ho dovuto andare problemi. Da uno psicologo a chiedere, a informarmi cosa sono le ghiandole di Schiene, perché non tutte le donne ce l'hanno, ma quante ce l'hanno, qui, dov'è il punto G, dov'è? Che appena mettete un dito nella patatina della vostra donna, se ha il punto G, sì, andando verso diciamo la parete interna, sì, diamo anche la mappa, lo sentite, adesso. Lo sentite. Sì, diamo la mappa. Cioè, per, scusa, dai, no, ma aspetta, tesoro, ma è, una, forza, è un su, discorso sì, serissimo. Ma perché sì, la devi interrompere sì, così? Dai. Anna sta spiegando una cosa che è dovuta andare addirittura dallo psicologo, giusto? Sì. Perché? Sì. Perché ti vergognavi, perché non mi, sapevi? Perché mi, cosa? Perché ero totalmente diversa dalle altre. Fra ragazze si parla. Ma a che età? Parla. A che età andavi? Sono andata a 25 anni, a 25 anni, cioè, a capire vabbè, come sono mai, a 46, no, signora mia, si sarà ripresa, no? Ah, dai, guarda, sì, da morire, è stata allora, la scoperta di una sessualità fantastica, fantastica. Va bene, so che lei però voleva anche intervenire sul tema, ad esempio, del in questo momento c'è il, abbiamo ma sentito gli uomini, SNAM, gli no? Uomini, abbiamo sentito le azioni della SNAM. Gli uomini con cui lei andava, sì? Sono, come dire, rimanevano sconvolti oppure a tutti piaceva? Questo è interessante. Allora, io dovevo dirlo prima, ah, perché addirittura altrimenti sarebbero, certo, per perché forza, altrimenti certo sarebbero stati inondati, era anche un pericolo, diciamo, da quel sì, punto non, di vista. Cioè, non puoi, però impazzivano tutti. Tutti impazziti. Cioè, ce n'è uno che ha detto, uno che diceva mi fa schifo, che cos'è sì, questa roba? Ne ho avuti pochissimi, quindi ah, no, di uomini. Nessuno. Quanti uomini nessuno hai avuto in tutta fino a 46 anni? Scusami se 5, 6, tutti impazziti per questa cosa qua. Impazziti. Alla carriera, diciamo, alla carriera. Devi leggere quelle pagine straordinarie. Emmanuel Carrer. Emmanuel Carrer. Dite che i rapporti anali, tutte quelle stupidaggini che dite. Cioè? È una cosa fantastica, è bellissima. Cioè, la signora De Mari, la signora De Mari ha torto, cioè non c'è nessun trauma rettale. Nessun diciamo trauma, nessun trauma. Anzi, un godimento straordinario. E tu squirti ancora di più. Eh sì. Va bene. Dopo questa grande notizia, Anna, boss è chiusa, ciao, meno male. Ciao, grazie. Anna, grazie. Ora, vi giuro che non l'ho fatto apposta. Non l'ho fatto apposta, caro Parenzo. Ma vorrei chiudere in maniera molto seria questa questione dello squirting che stiamo trattando da giorni. Non scherzare su questo, perché dopo averti letto pagine di Emmanuel Carrère, dell'ultimo libro di Emmanuel Carrère, che mi è stato consigliato da intellettuali italiani, non da quelli che dici tu, dai cosiddetti beceri che dici tu, si è innescato una discussione, che sarà pure una vecchia discussione. Qui abbiamo una persona autorevolissima, dell'Istituto di Sessuologia Clinica di Roma, che si chiama Adele Fabrizi ed è psicosessuologa, che io saluto. Buonasera. Eccoci qua. Allora, dottoressa, ecco. Buonasera. Dottoressa, tecnicamente, che cos'è lo squirting? Lo spieghi a Parenzo? Io credo di saperlo, però lo spieghi a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Che cosa è? Allora, intanto lo squirting non è esattamente la stessa cosa dell'eiaculazione femminile. Sono due cose diverse. Cioè, non è quello che diceva l'ascoltatrice di prima, che dice sono venuta 30 volte, non è vero? Oppure sì, può darsi di sì, perché no, non l'ho sentita però, quindi non so dirlo. Dicevo che è un po' diverso dall'eiaculazione femminile, nel senso che lo squirting, che spesso viene utilizzato come sinonimo dell'eiaculazione femminile, è l'espulsione di un liquido che corrisponde ad urina, molto diluita, che proviene proprio dalla vescica, e questo avviene nel momento del maggior piacere femminile, dell'eccitazione, però due cose combaciano, cioè uno mentre ha l'orgasmo può squirtare in contemporanea? Certo che sì. Senz'altro sì. Sì, però però uno può squirtare e non godere, diciamo, no? Le due cose spesso si sovrappongono, perché lo squirting avviene quando la donna, diciamo, riesce ad aggiungere qualcosa di più all'orgasmo, è talmente disinibita, diciamo così, che si lascia andare ancora di più, è come un passaggio successivo, si lascia andare un pochino di più e dunque c'è questa espulsione dell'urina. Senta professoressa, allora lei mi ha detto una cosa fondamentale che molti negano, cioè la questione dell'urina. Allora, quel liquido che esce, io devo dirti la verità, Parenzo, mi è successo più volte a me. A te non so quante volte, non lo vuoi dire, a me è successo più volte. Volte è successo e mi piace particolarmente, però io non pensavo fosse libero urina. Domani metterà la tua faccia, ecco la confessione molto di diluita, Cruciani, guarda. Io ho aggiunto molto urina, diluita, molto diluita. Cioè c'è una parte comunque di urina viene dalla vescica, certo che c'è una poi parte c'è, di urina. Però posso dire ancora, l'eiaculazione femminile invece è il rilascio di un liquido che è diverso, più denso, più biancastro, che viene da una parte. Va bene, benissimo. Cioè, aspetta. Femminile. Ah, benissimo. Questo allora, c'è un ma io quindi devo andare a cena adesso. Chi se ne frega? Capito, chi se ne frega? L'abbiamo chiamata noi. No, dottoressa, per carità, molto rispetto per lei. Ma è una tecnica, una scienziata di questo. Ma non è io che fa. Rispetto la scienza, infatti. E appunto, tu che rispetti la scienza. Dico solo che sono le 20:44 e devo andare a cena. Ma infatti, allora squirtate. Io però ti fai dare lezione di scienza dalla professoressa Adele Fabrizi, che sta dicendo delle cose tecniche, quello che accade nella realtà a diverse donne. In che percentuale le donne squirtano secondo lei? Quante donne in percentuale? Insomma, abbastanza. Diciamo che 10%? Spesso. No, anche di più. Arrivare forse al 35-40% delle donne. Ma clamoroso al Cibali, ma veramente pazzesco. Però, allora, questo va aggiunta però una cosa clamoroso. Aspetta, fai aggiungere una cosa. Sì, scusi. La cosa importante è che, allora, per alcune donne questo è normale, va bene. Naturale. È naturale. E ad alcuni uomini piace anche, no? Sì. L'ha appena detto, anche per lei è una cosa gradevole. Beh, molto gradevole, ad altri, esatto. Ad altri uomini questo non piace, alcune donne si sentono estremamente imbarazzate. Assolutamente, sì. capitare una a cosa. A me una volta genere. È successo, dottoressa, una roba incredibile con una persona che non praticamente telefonarvi tra di voi. No, assolutamente, dobbiamo comunicare a tutta l'Italia. Sì, una sì, persona sì, che squirtava moltissimo, addirittura anche con getti molto lunghi. Il conto al 9, grazie, stai dando il conto. Le dico una cosa, che questa persona si vergognava moltissimo di questa roba qua. Moltissimo. E io a dire quando non c'è molta intimità può essere imbarazzante. Sì, può darsi che sia questo. Sì, erano le prime volte, insomma, si vergognava moltissimo. E io dicevo: ma perché ti vergogni? Beh, una cosa che mi fa impazzire, non c'è assolutamente bisogno di vergognarsi. L'hai postato su Instagram poi? No, ma non a tutti gli uomini però piace, quindi scusa, allora in questo 35-40% lei ci mette quelle che lo fanno al naturale, cioè che vengono in questo modo, che vengono, cioè che hanno questo squirt a naturalmente, oppure quelle che imparano, cioè si può imparare a squirtare? Questo è interessante. Ecco, lezioni, sì, certo. Si può imparare. E allora le daremo. E allora però, da domani daremo lezioni alle signore. No, ci tengo a dire dire una cosa. Assolutamente. Adesso però questa non è che debba diventare un'altra ansia da prestazione femminile. Cioè? Per carità. Ma nel senso che comunque non è obbligatorio, cioè se una donna non ha queste manifestazioni così eclatanti di piacere può andar bene lo stesso. Ma sì, ma non c'è dubbio, ma certo. No, ma voglio dire, ma come si fa a imparare? Cioè ci sono delle persone che a un certo punto possono attraverso dei movimenti, cioè non è solo una cosa naturale, oppure uno lo può... No, si può anche imparare, nel senso che si può imparare, come dire, a lasciarsi andare e attraverso anche una ginnastica del pavimento pelvico, quindi di quei muscoli che stanno intorno, diciamo, alla vagina, intorno alla vescica e all'uretra femminile, si possono addestrare, diciamolo così, questi muscoli in modo tale che ci possano essere delle contrazioni anche volontarie. Ma da lei, parte scusi, della donna, vi abbiamo trasmesso Radio Orgasmo. Ora la programmazione tornerà a Radio 24. Scusi se glielo chiedo, dottoressa, ma lei ha provato ad imparare oppure, oppure ma no? Ma questo è un fatto personale, non credo che interessi a nessuno. Scusi, però, ma puoi chiedere, ma che malato sei che chiede ma se io l'ho confessato, se io ho detto che mi piace, uno può dire. Ma è interessante, e lei l'ha confessato spontaneamente. Lei non lo vuole dire, vabbè, io preferisco lei è un tecnico, chiedere a un magistrato per chi ha votato è uguale, la dottoressa scusi, è un tecnico, dottoressa, quante donne vengono da lei e le chiedono mi vergogno, che cos'è questa roba? Vengono molte donne? Sì, molte non ne vengono naturalmente, non sono questi problemi veri, chiaro però allora posso dirle una cosa interessante: vengono più donne con il proprio partner che magari vorrebbe che la donna si lasciasse più andare. Addirittura? Ma certo, perché questo significa per l'uomo una conferma della propria virilità e della propria capacità di portare la donna. E lei che donna... consiglio dà quando vengono una coppia e dice guarda io voglio che mia moglie o la mia compagna squirti invece non ci riesco? Che consigli dà lei? Allora, intanto do consiglio di accontentarsi, diciamo così, tra virgolette, di quello cioè che succede, di accettare quello che succede e di non avere sempre in mente qualcosa di più, qualcosa d'altro, perché questo naturalmente è il modo peggiore per arrivare poi ad un altro livello di piacere, no? Però perché magari guardano i film porno e guardano le persone che squirtano quando sono vere e le pornostar perché squirtano così tanto, quelle che squirtano, diciamo? Ma perché allora si addestrano, bevono moltissimo prima del rapporto sessuale. È tutto finto secondo lei, non c'è niente di vero. Ma può darsi, secondo me qualcosa di vero ci può anche essere, però insomma si aggiustano un po', si preparano, ecco. Si preparano bene. Allora abbiamo capito tante cose da questa roba. Cioè, ci si può allenare, uno può arrivare allo squirting anche se non è una cosa naturale. I muscoli del pavimento pelvico. Come fa uno ad allenare sti muscoli del pavimento pelvico? Scusi. Per esempio, nel momento in cui la donna sta minzionando, sta urinando, allora il momento in cui trattiene l'urina significa che sta esercitando un bisogna trattenere l'urina per squirtare, bisogna trattenere l'urina. Meno male, ma no, così non è così semplice. No, d'accordo, però è una questa è un'operazione per riconoscere quei muscoli. Certo. Per riconoscere quei muscoli. Dunque, per iniziare un allenamento, però basta trattenere un po' e quel muscolo si può allenare. Ma l'uomo ha una funzione, cioè l'uomo con le dita, eccetera, può facilitare questo. È certo che sì, naturalmente. Sì. Certo, cioè, bisogna, sì, trovare, bisogna trovare il punto giusto. Io diciamo, darei una laurea a Cruciani honoris causa in questo momento. Bene, professoressa, io la ringrazio moltissimo. Grazie, grazie molto. Un abbraccio, grazie. Un abbraccio. Arrivederci. Grazie. Grazie anche per i dettagli, grazie. Ma pare, ma è possibile che te in 40 anni non hai trovato ancora una che ti ha squirtato sulle cosce? Io boh. Questo è un genio, ragazzi. Comunque, direi che possiamo, la tecnica chiudere, no, è tecnica. Tu non ci credi a queste, sì, cose, sì, qua. Per carità, io. C'è una sessuologa importante, importantissima. Sì, no, simpatica, anche molto. Molto simpatica, sì, brava, che parla bene. Molto, sì. Parla bene, che ti ha spiegato tecnicamente. Sì, tu, sì, facevi sì, dottore, ti vuole spiegare ogni tanto. Tecnicamente, uscito, dai. Però, C'è un sacco di gente che qui vuole intervenire, però. Mandali tutti a quel paese. Guarda. Tu dici, manda tutti a fare il culo. Pure la partita. 51 non sono più pagato. Aspetta, Tommaso, provincia di Siena, Max, provincia di Bergamo. Non me ne frega niente. Giovanni Reggio Calabria, Raffaello da Milano, andate tutti, Maurizio da Napoli. Per concludere, Maurizio da Napoli. Voglio sentire Maurizio. Tutti qui, Tommaso, Mac, Giovanni. No, no, no. Vai a fare in culo. Io no, sì. Vai, no, a fare in culo. Giovanni, sì, allora, tutti, Giovanni, tutti. Allora, Giovanni. Sono fuori orario. Ti ha mandato a fare in culo, Giovanni. Io sto zitto, non parlo, non sono più pagato. Dimmi, Giovanni. Ciao, Cruciani. Senti, dimmi. Sono d'accordo con te perché le mogli, le sorelle, le figlie, dobbiamo lasciarla a casa, punto. Come dobbiamo lasciarla? Chi l'ha detto? Chi l'ha mai detto che dobbiamo lasciarla a casa? Ho detto il pallone io. Sì, però Giovanni, ti devo chiamare domani. Io. Sei un personaggio, secondo me, molto interessante, Giovanni. Ti chiamo domani, non manchiamo. Ti chiamo domani, perché sono un po' più di un'ora. Lo so, hai ragione, ti chiamo domani, non ti preoccupare, capirai. Non ti faccio aspettare domani, Giovanni, però mi devi essere chiaro domani, eh. Sentire luminoso, devo chiamare tutte queste cose, ti devo chiamare che noi abbiamo i falsi indigeni, non vogliamo falsi forestieri. Che ha detto? Non so se si farà indigeni, curare indigeni forestieri, che si faccia curare, amico mio. Nel 48, lo dice Pink, sì, va bene. Noi qua abbiamo i falsi indigeni, sì, Peppa Pink, i falsi indigeni, che cazzo dice? Si faccia curare, vi dia retta, va, arrivederci, alla prossima. Cesso, vai. Sì. Ci sentiamo domani, Giovanni, con calma, con calma. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Beppe, porca puttana. Radio 24. Libera la voglia di fare. Naturalmente.